24 mattino, l'Italia si desta. Noi vogliamo gli attori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Dire agli italiani che stanno per pagare tra poche settimane l'IVA, l'IRAP, l'IRPEF, la TASI, l'IMU, dirgli che servono 1000 giorni per risolvere i loro problemi, per noi è una presa in giro. Per noi bastano 1000 ore. Avete capito la ricetta di Luigi Di Maio, che è il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle? A lui e al Movimento 5 Stelle basterebbero 1000 ore, altro che 1000 giorni, 1000 ore. Per sistemare che? Non lo so, per sistemare tutta l'Italia. 1000 ore quante sono? Dunque 24 ore al giorno, 240 ore, 10 giorni, 10 giorni per 5, 50 giorni, 2 mesi! Due mesi! Porca miseria, guarda che due mesi sono pochi, eh! In 2 mesi sistemiamo l'Italia, 1000 ore, contando di lavorare 24 ore al giorno, poi se uno ne lavora dai 12, facciamo 4 mesi. Però. Vabbè, allora, questa è 24 mattino, invece qua le ore sono piccole, sono le 6:32 minuti. C'è Peter Bescapè in regia, il nostro alpino. C'è Miriam Lucchetti in redazione che correva di qua e di là. E siamo pronti con il Parlamento da aprire e con due ritorni che... Il caffè volentieri a tutti quanti. Oddio, su uno dei due ritorni un pochino... Forza gente! Fino a un secondo fa c'è stato un dubbio, perché ha detto noi lo chiamiamo, poi chissà se risponde. Luca Dini, buongiorno, direttore di Vanity Fair. Buongiorno. Ti abbiamo svegliato? No, cioè sapevi che ti avremmo chiamato, perché ti ho scritto ieri, ma non ho avuto segnale, allora ho detto, ma si ricorderà. Ma sai come si dice, chi tace... Ah, acconsente. Ottimo, acconsente. Benissimo, insieme a lui, a Luca Dini, torna la Paola Saluzzi. Buongiorno. Non è... Che meraviglia ritrovarvi. Buongiorno direttore, buongiorno. Comandante Alino. Senti, non mi sarei mai permesso di presentarti dopo un signore, ma c'era questo giallo con Luca Dini, dovevo subito... Tutto ubi maior minor cessat, primo. Secondo, assolutamente, bisognava sciogliere questo dubbio, ma... Onestamente, sì. Ha mai una sola volta fatto mancare la sua presenza? No, ci ha risposto da Londra alle 5:30 del mattino, ci ha risposto da Sorrento in vacanza. Era a Buckingham Palace, la verità era questa, ha parlato piano per non far dalla per non svegliare, certo. Allora, ricevo una mail ieri alle 7:52 del mattino. Buongiorno Milan, dal signor Angelo, domani è mercoledì, cioè è oggi, sicuramente. Ci sarà il rientro della rossa. Rido. Perché chi è la rossa? L'ho già ammirata su Sky. Ha già ripreso Sky TG24 pomeriggio. Potresti per cortesia farle un piccolissimo appuntino? Sì, signore, sono qui. Un po' di sole in più non l'avrebbe guastata, anzi le avrebbe dato un indiscutibile valore aggiunto alla sua già fresca bellezza. Ma questo signore è un poeta, il problema è prendere il sole e convincere le persone che mi sono vicine, evidentemente anche lontane, che durante le vacanze io ogni tanto faccio anche questo. È proprio, non lo so, non siamo parenti io e il sole. Non siete parenti. No, vabbè, non comunque, siamo parenti. Tanto ti dovevo, mi è arrivata questa mail da Angelo, dal signor Angelo. Grazie. Questo mercoledì alle 6:33 una nuova puntata di Evviva le Rosse con Alessandro Milan e Paola Saluzzi. e qualche altro ospite di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Ma non è vero, ma sempre così, poi Luca Dini si deve beccare questa cosa. Non è vero, ma non è vero, assolutamente ce ne frega. E come, allora, vorrei sapere tutto, come va Luca, come va? Tutto bene? Io sono stato in vacanza un mesetto, lo sai, e sono tornato da 3 giorni, è tutto, lo so. Tutto come prima, non mi sembra che... Tutto come prima. È successo qualcosa? Lavorato, no, tutto bene. Bene. L'Italia è sempre questa, non ci sono... Tutto perfetto. Cioè, se dovessi riassumere questo mese, io sono stato all'estero, questo mese in cui... come, cioè, fai conto che sia andato su Marte, sono tornato, cosa è successo? Niente. Ecco, appunto, mi sembrava la sintesi efficace. Tu, Paola, confermi? Ma invece dello sbarco dei 1000, lo sbraco dei 1000, nel senso che c'è un uso del numero 1000, sì. Opportuno, assolutamente opportuno, ci ricorda le vecchie 1000 lire, per chi insomma porta memoria di tutto ciò, ci sono i 1000 giorni, c'è altro, sì, che 1000 giorni, 1000 cose, 1000 tasse, 1000 minuti ci basterebbero, 1000 ore, 1000 tutto, c'è grande polemica intorno a questo numero che per fortuna oggi scende a 997, assolutamente, esatto, consultabile in tutte le sue forme, e non sono cambiate molte cose, non sono, forse a volte certe cose non cambiano, purtroppo ne cambiano tante altre in altre situazioni, in altri luoghi del mondo, e c'è gran paura. Diciamo, infatti, che siamo qui, noi aspettiamo che qualcosa cambi davvero. C'è anche il più pessimista, 1000, non più 1000, ma non vogliamo assolutamente sfruculiarlo, quello. Vorrei partire... Uno su 1000 ce la fai, uno su 1000 ce la fai. Le grandi Gianni Morandi, andiamo da lui. Prima di buttarci però sulla politica italiana, visto che tu ne hai fatto cenno, allora, ci sono queste immagini, io non le voglio neanche vedere, ma non lo so neanche se circolano bene in rete tutte fino alla fine, diciamo così. Ma che è successo oggi? L'apertura di molti giornali, e c'è stata una nuova decapitazione, sgozzamento, come lo vogliamo definire, quello è, da parte di questi terroristi dell'ISIS nei confronti di un giornalista, secondo giornalista americano, e tra l'altro minacciano ora di decapitarne un altro inglese, lo hanno già nominato con nome, cognome, individuato. Caro Luca Dini, sembra di essere tornati a qualche anno fa, quando purtroppo queste scene erano quasi quotidiane, fortunatamente erano un pochino scomparse, adesso insomma da occidentali come approcciamo questo mondo così sconosciuto, no? Che ci piomba nelle case con questi video sconcertanti? È un mondo sconosciuto, in realtà c'è anche vicino, perché è un mondo di propaganda, cioè questo orrore vive proprio della sua propagazione, quindi io sono molto favorevole a chi dice non facciamole vedere, assolutamente. Ecco, questo infatti a me aveva colpito, aveva colpito anche nel giorno della prima esecuzione, perché su Twitter invece potevo seguire, infatti tu avevi scritto questa cosa, cioè addirittura non farle vedere? Non farle vedere e non diffonderle, perché di questo vive chi lo fa. Cioè, è propaganda, è terrorismo, cioè, è far paura, è diffondere l'idea che siamo tutti ostaggi di questa cosa. Un modo di rispondere, secondo me, civile è quello di non dare eco a... cioè, dire barbarie è francamente poco. Sì. È una profonda vigliaccheria, anche perché... Ma certo, c'è da dire che vivono proprio di queste immagini, cioè i video sono costruiti proprio per generare quel terrore che effettivamente generano. Sono costruiti con abilità, con conoscenza dei social media, sono proprio... sono molto più occidentali di quello che vorrebbero farci credere, in realtà, perché usano proprio le tecniche della comunicazione nel mondo occidentale. Del resto molti di loro vengono dal mondo occidentale, sono cresciuti, hanno mangiato in questo piatto dove lo sputano, io spero, insomma, che gli vada molto molto di traverso, come dire. Questo certamente. Paola, tu ecco, sull'idea di come comportarsi effettivamente è interessante, al di là Alessandro, di poi... come davvero non sposare le parole di Luca Dini, del direttore. Questo ovviamente non toglie nulla, il non far vedere sottolineiamo tutti che non toglie il gesto e non lo cancella, e queste sono delle belve, questa non è guerra, non è, e oltre il terrorismo siete delle belve, avete mangiato signore in questo piatto e poi ci sputate sopra, mi sembra la chiusura più corretta. Fate il video, non esistete, urlate al vento, non ci siete, non ci occupiamo di voi, che non vuol dire non occuparsi della tragedia che è appena accaduta, è chiaro. E non vuol dire dimenticare la persona che è stata appena eliminata in quella maniera, però non esistete. Questo dovrebbe essere una regola, bisognerebbe creare una sorta di norma che diffuso ovunque per evitare che questa gente esista. Ma sai, questo ahimè non sarebbe possibile, perché se uno anche lo volesse, perché non si può, come dire, bloccare non tutto. Se c'è una cosa che è ancora più insopportabile in tutto questo, abbiamo visto delle immagini anche in altri teatri di guerra di come vengono umiliati, immagino per esempio, ricordo in Ucraina, tra l'Ucraina e la Russia, quella sfilata, no, di filo miliziani, credo ucraini, presi dai filo russi, no? Come si umili il nemico, ecco, se c'è una cosa odiosa sono questi messaggi ai quali queste vittime, queste povere vittime sono costrette a dire, a recitare poco prima di essere uccisi, no Luca Dini, addirittura, cioè pochi secondi prima di essere uccisi in questo modo brutale vengono costretti anche a dire delle cose che probabilmente non pensano, non direbbero mai in altre situazioni. Immagino con bugie, anche con ricatti che non voglio neanche immaginare, però sicuramente non in modo onorevole, come dire, perché non c'è niente di onorevole. E fra l'altro vorrei aggiungere che questi signori sono pieni di soldi, finanziati, spero sapremo bene da chi, presto. Non è vero che sono, non è il frutto della disperazione, perché non c'entra proprio niente. Questo è importante, non bisogna in nessun modo pensare che sono i famosi anti-imperialisti. No, anzi. Sono figli di un altro imperialismo. E spesso se la prendono con gente che l'imperialismo non ha mai avuto nulla e non ha mai goduto. Ma non solo, adesso circola questa vulgata anche riguardo, no, all'idea che molti in Italia o alcuni d'Italia si sarebbero convertiti e andrebbero a fare il jihad perché dall'Italia non ci sono risposte, la disoccupazione. Ma per favore! Ma di che, detto alla romana? Ma vabbè, di che stiamo parlando? Ma per favore! Per carità. Ah, vabbè, voglio farvi sentire invece questi due sfoghi che riguardano sempre una situazione di esteri che ci coinvolge, cioè la vicenda dei due Marò. Voglio chiedere anche a voi se condividete intanto le parole della figlia di uno dei due Marò che si è abbandonato a uno sfogo anche da ventenne dicendo Italia paese di M. Sentite un amico di Paola Saluzzi, un carissimo amico di Paola Saluzzi, l'onorevole eurodeputato, buon anno della Lega. Cioè, inutile fare tante parole, sono più di due anni che questi due dei nostri soldati sono in India e il governo indiano ci ha preso per i fondelli talmente tante volte, eravamo riusciti a portarli in Italia, siamo stati talmente fessi di rimandarli in India. Quello che ha detto ieri la figlia del soldato che ha avuto un'ischemia è quello che penso anch'io, cioè un'Italia di merda. Eccolo lì, cara Paola Saluzzi, so che ti vado a sfruculiare. Ma sta cosa non è, evidentemente, sì. Io credo che lo sfogo di una ragazza appunto di 20 anni sia quello, e ovviamente sia quello appunto, se evidentemente ha sentito questo bisogno di esprimere così il proprio dissenso, l'ha fatto. Io non credo che l'Italia sia un paese di merda, ecco, così lo dico tutto. Credo sicuramente che questa sia una situazione da risolvere, punto. Poi dallo sfogo e dall'ira di chi anche legittimamente e umanamente può dire tutto questo, mi fa un po' impressione vedere l'immediato salire sullo stesso autobus o pullman o corriera di un sacco di gente, no, che si spinge, si spintona per salire, ha detto così, saliamo tutti, sì, immediatamente, siamo arrivati. Sì, talvolta questo è un paese sbagliato, con gente sbagliata che dice cose sbagliate, e fa anche cose sbagliate, insomma succede, soprattutto che dice cose sbagliate mettendosi in scia, ecco. Ah. Questa è una cosa meno così, meno lodevole. Sì. E vabbè, però certo questo sfogo, sì, secondo me bisogna separare proprio il fatto, insomma, che la figlia può dire e può pensare anche delle cose da figlia che da 2 anni vede una situazione un po' surreale, non sbloccarsi. Tu Luca che pensi? Che hai pensato quando hai sentito parlare di paese di merda? Quando ho sentito lei ho pensato che cosa si può pensare, soltanto provare solidarietà e comprensione. Tutto questo sono d'accordo anch'io, sempre per dirla con le parole che sono state usate, di merda è più la strumentalizzazione della cosa che la strumentalizzazione politica della cosa. Vabbè, abbiamo sistemato il nostro amico Buonanno. Che cosa avrebbero fatto invece loro? Va bene, abbiamo sistemato l'onorevole deputato Buonanno, amico di Paola Saluzzi. No, ecco, per esempio, un altro amico di Paola Saluzzi, Mario Borghezio. Ma perché? Perché ti stai nervosendo, Paola? No, Mario Borghezio, cosa fa? No, non lo so, ti faccio sentire. L'ultima volta che l'ho visto pigliava le botte dalle madri di un quartiere romano. Sì, lo so, questa cosa ti ha segnato, è stato eletto, peraltro. Sentilo però prima del traffico, Bella Presidente italiana, complimenti. Ezio, ci vediamo, credo, alle 12.45 come delegazione italiana e ne parleremo a lungo. Se vuole, invitate. Grazie. Europa. Non ha fatto niente per i nostri baroni. Era con la Mogherini, l'Europa, bella presidenza italiana, complimenti, insomma, un po' di polemica. Vabbè. All'altro argomento, dopo? Mandiamo al traffico? Ma mandiamo il traffico. Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente. 24 mattino. Bentornato Milan, mi sei mancato, ti aggiorno. In queste 5 settimane non è accaduto niente, se si esclude che il Premier ha taciuto per 2 giorni a cavallo di Ferragosto e ha mangiato un gelatino. Per il resto ha continuato con i selfie, le conferenze stampa e le promesse mirabolanti. Dico così che quei politici di merda che non capiscono un tubo, che vogliono affanculo, perché c'è gente che non è capace a fare 2x2 ancora in Italia, o 4x4. Volevo solo dire che ascoltare la radio la mattina vuol dire perdere tutta la speranza e tutta la voglia di fare. Aiutate questo Renzi, che è l'unico che sta facendo qualcosa, veramente l'unico, perché finora non è stato fatto niente. Adesso Renzi comincia a muovere le cose, per favore non fate i disfattisti come al solito, come ogni mattina, io non vi ascolto più. La fuga della cintura. Stamattina sul mio letto ho trovato un biglietto, era della mia cintura, quella nera, ruvida e un po' dura, diceva così: caro amico, lascio questa tua vita così stretta e striminzita, fai salti mortali per pagare le spese, stringi, stringi per arrivare a fine mese, ormai mi hai quasi strozzata, date scappo e non torno più, i pantaloni non mi stanno più su, sono rimasto in mutande come ogni italiano medio, e se provate a guardare sotto vedrete che è tutto rotto. No, l'addio alla cintura, Paola Saluzzi, ma una poesia alla cintura, ma quella signora che ci ha abbandonato, no, signora, ma non è che siamo, non siamo sfattisti, come c'è, non fare lo sfattista anche tu, Luca Dini. No, ma noi non siamo sfattisti. Non siamo sfattisti, se magari ci permettiamo di dire che c'è qualcosa che sembra che non vada. Comunque poi dopo in rassegna leggerò il nostro direttore sul Sole 24 Ore intervistato Matteo Renzi, ci sono 2 pagine di intervista in cui risponde a tutte le critiche, le annuncite, eccetera, e vedremo che succede. A proposito di Renzi, come al solito c'è sempre questo nemico interno. Io un giorno vorrei qualcuno che scrivesse un libro serio su una psicanalisi di Massimo D'Alema, proprio cioè psicanalizzando tutti i risvolti, i riflessi. So già, tanto lui odia già i giornalisti, quindi questa frase non potrà che solo acuire la sua proverbiale, insomma, come dire, Aiutami tu, Luca. Cioè. No, ci vuole un astrofisico, un esperto di buchi neri. Un esperto di buchi neri, no? Addirittura. Comunque, sentite, Massimo D'Alema, che dobbiamo fare una premessa, probabilmente è leggermente infastidito perché al posto della Mogherini voleva esserci lui. Detta questa premessa, che ha detto D'Alema? I cittadini attendono risposte sostanziali, dato la situazione economica, sociale, delle famiglie, è una situazione molto pesante e che via via diventa più difficile. Ma il governo compie indubbiamente degli sforzi, diciamo, però i risultati sicuramente per ora non sono risultati soddisfacenti. Sentite qui, Paola Saluzzi, il governo compie degli sforzi, sempre con questa cantilena. Quello è il suo, come dire, ma i risultati, quello, risultati. È il suo cantilenare. Certo, i risultati devono arrivare. La cosa che mi fa specie, non riguarda soltanto D'Alema, è vedere come tutti dicano si deve fare di più, non è stato fatto abbastanza, ma tutti facevano parte del fare, sì, a suo tempo, quando non veniva fatto abbastanza. Quindi fate qualcosa, non so, sì, come no, dire, no. Tutto ciò risulta molto. Lui avrebbe fatto qualcosa volentieri al posto di alto rappresentante dell'Unione Europea, della politica estera dell'Unione Europea. Quello fa parte della naturale, del naturale combattimento quotidiano per ottenere il posto, uno ce n'è. Certo. E tanti sono i contendenti, è andata così, e caro Massimo D'Alema, caro Massimo D'Alema, succede che a volte le poltrone vadano ad altri, questo è. Però insomma è interessante capire, sempre si dice sempre così, che per la sinistra il vero nemico è sempre la sinistra, Luca Dini, c'è il rischio che poi i veri nemici siano quelli interni per Matteo Renzi? È sempre stato così, tranne quando vincono le elezioni, allora il loro per 41% erano tutti sul carro. È chiaro. Ti ricordi quella mitica foto dopo la vittoria, con tutti che brindavano al 40%? C'era Fassina che insomma, con Renzi, c'era Nico Stumpo, quello che organizzava tutta la macchina delle primarie all'epoca, quando vinse Bersani e insomma Matteo Renzi invece perse. Vabbè, che dire. Allora, voglio andare, eccolo qua. Cioè no, mi è arrivato Vanity Fair, temevano mi arrivasse, era il dubbio come il direttore risponderà, mi arriverà ancora in mazzetta Vanity Fair, sai, sono tempi di spending review, non sai mica quello che succede, cioè qua. Ma Miriam Lucchetti te l'avrebbe portato comunque, vabbè, noi ragazze chiaro, siamo chiaro. Delle attente elettrici. Intanto guarda, ho fatto un test proprio con Miriam, gli ho detto: Miriam, questo in copertina non lo conosci neppure tu. E infatti ha guardato, e allora nel momento in cui ha guardato la copertina ha detto: effettivamente non lo conosco. Ho detto: sono tranquillo. Allora, come lo si deve pronunciare? Di che nazionalità è intanto? No, è americano, si pronuncia come lo leggi. Ah, quindi Ansel Elgort. E chi? Sì. Chi sarebbe? Vabbè, è un Léon Belfieux, questo lo dico subito a Paola Saluzzi. Viva! Lo dico subito, Paola, se hai il dubbio se comprare o no in base all'estetica della copertina, tranquilla. Vado tranquilla. Sì, ma chi è? Chi è Luca? È il protagonista di Colpa delle Stelle, un film che da domani è al cinema, ed è un film... come chiamarlo? È veramente un fenomeno, è stato un fenomeno soprattutto tra i giovanissimi, una storia strappalacrime, però insomma è un vero fenomeno, ci abbiamo scommesso perché questo ragazzo secondo me negli anni più imparerà molto presto. Ci vorrà qualcosa di più, però insomma. Vabbè, a 20 anni si mostra un po' petto nudo. Vabbè, a 20 anni Paola è piccolino. È un cinino, però è. Sì, ma dai. È un cinino carino, vediamo. No, ma no, è piccolino. Vabbè, insomma, hanno fatto adesso, si addice. Diciamola tutta, avevamo bisogno che tu tornassi. Ah, ecco. Alessandro, allora, per avere tutti questi stimoli, questi punti, queste cose, di dove sei? Alle 7 meno 2 o meno 3 di mattina. è interessante. Ti svegli, ti svegli un po' così, ti svegli un po' così. Sì. Però come sapete, io ho la segnalazione mia dell'articolo di Vanity Fair. Allora, c'è stata questa anche moda, devo dire, del Ice Bucket Challenge, di queste docce gelate, eccetera. A proposito, l'hai fatta, Luca? Perché avevo scritto. L'ho fatta. Se fossi stato qui, avresti seguito. La vera cosa che è successa in agosto è stata la polemica di Luca Dini contro i detrattori dell'iniziativa. Ah, ecco. Violentissima polemica, ma su Twitter o no? Contro chi critica a prescindere. Vabbè, ma questo non contro chi non lo vuol fare o vede gli questo aspetti giurisdizionistici. Comunque, quello che fate voi è raccontare la storia di Ugo e Silvia, una storia fino a 5 anni fa normale, poi la diagnosi e la SLA. Ecco, raccontate, perché tanto si è parlato di questo, cioè si è parlato molto delle docce, ma poi insomma voi raccontate. Si è parlato molto, molte persone che non sapevano cosa fosse hanno imparato a capire che esiste la SLA, che non è un problema così raro, eccezionale come si pensa, perché sono tante le persone che ne soffrono, e qui cerchiamo di, come già abbiamo fatto altre volte, di spiegare cosa vuol dire vivere con questa sì, malattia. Prima di appunto di giudicare è giusto o no, hanno bisogno o no, ecco, forse intanto sapere, conoscere, no, ma è sapere. Paola, che dire, io ti ho già visto alle 3 combattere su Sky l'altro giorno combattevi con 7 ospiti, c'era Peter, ma erano pochi, sai, lo stile, adesso non posso più dire lo stile Prandelli, ma insomma, ma in ogni caso come pochi 11 per volta, e perché generalmente 11 più la panchina. Quindi no. Ogni giorno 11 più la panchina. Ma cacciane due o tre, No, il momento migliore sarà quando potrò avere in collegamento da Milano Luca Dini e Alessandro Milan. Vedrai che succederà. Quando vuoi, intanto oggi alle 3, ricordate, la rossa su Sky. Brum. Intanto vi saluto e vi ringrazio, alla prossima. Che te pozzino via fuoco, ciao Mila. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci qui, debosciati d'Italia. Vi mancava un po' questo urlo di guerra? E se non vi mancava, pazienza. Debosciati italiani che siete ancora lì, fermi alle vostre attività prelavorative, mattutine, forza, schema Allegri a palla, dai! Allora, siamo qui. Fino alle 9.30 saremo qui, come sapete, nelle prime due settimane di settembre, anche 9.33, 9.34, ieri fino alle 9.35, esondiamo, poi rientreremo con molta gioia fino alle 9 nel nostro orario abituale dal 15 settembre, credo. Allora, oggi parleremo di un po' di temi anche internazionali, quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, lo faremo dalle 9. Prima invece, dalle 8.15, parleremo con quel sindaco di Locri che si è appellato all'altissimo per combattere l'assenteismo tra i dipendenti comunali. È un paese normale quello in cui bisogna scrivere addio per combattere l'assenteismo. Chissà cosa ne penserebbero in Germania, chissà cosa ne penserebbero in Svezia, chissà cosa ne penserebbero in Danimarca. Ho citato tre paesi a caso, quelli nei quali mi sembra che ci sia un po' più di civiltà rispetto a noi, rispetto al nostro paese. Comunque, parleremo di questo, avremo ospite anche il sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti, avremo ospite il sindaco di Locri, parleremo anche con il sindaco di Iesi, dove c'è stata quella follia di un uomo, un immigrato col macete, fermato 8 volte dalla polizia, 4 volte rilasciato. Insomma, i segnali c'erano tutti. Va bene, questi gli ospiti, questo è il menù. Ora i giornali. mercoledì 3 settembre. Intanto i titoli, iniziamo dal Sole 24 Ore, vedremo più avanti l'intervista che il direttore Roberto Napoletano ha fatto a Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio. Il titolo di apertura del Sole 24 Ore: Renzi, subito tagli per 20 miliardi e sul bonus non torno indietro. Poi invece, per quel che riguarda gli altri giornali, direi che è il nuovo orrore che proviene dalla Siria per la decapitazione di un altro giornalista americano. Sfida Obama, un altro decapitato, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica invece il boia della Jihad, siamo tornati. Libero, macelleria islamica. Ovviamente tutti i titoli sono corredati dalla foto dell'attimo prima dello sgozzamento di questo giornalista americano. Il ritorno del boia anche per il Messaggero. Il giornale: l'Islam taglia un'altra testa, ma noi facciamo guerra a Putin. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre si concentra sulla scuola la Stampa: il piano precari assunti ma senza scatti. Oggi verrà svelato il piano scuola. Il Fatto Quotidiano invece torna su una vicenda di mala sanità denunciata già ieri: donna uccisa in sala operatoria a Potenza, nessuno deve sapere. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Manifesto si concentra sulla situazione della crisi Ucraina e Russia, mette la foto del numero uno della NATO, Rasmussen, segretario uscente della NATO. Il titolo è Il pazzo atlantico. Ecco, si gioca con il patto atlantico, ma stavolta Rasmussen viene definito il pazzo atlantico. Questo in prima pagina del Manifesto. Ma voglio partire da che cosa? Da alcuni articoli, a cominciare da, sapete che qui teniamo il conto ormai da tempo, siamo nel pieno, nel vivo, nel cuore della 70esima settimana decisiva per la riforma elettorale e nonché decisiva per l'abolizione delle province. A proposito di province, oggi Sergio Rizzo racconta sul Corriere della Sera i numeri delle clientele. Questo è il titolo, Province, i numeri delle clientele con la riforma sono 20.000 da ricollocare. Graziano Del Rio dice che per portare a casa i risultati non basta far passare un provvedimento, bisogna stare sul pezzo, e così vale anche per l'abolizione delle province elettive. Giovedì prossimo, 11 settembre, a sentire il sottosegretario alla presidenza, saranno partoriti i famosi decreti attuativi. Nel frattempo, una società del Tesoro della Banca d'Italia, la SOSE, ha fatto con il centro studi Nomisma una simulazione del personale, dei costi necessari a questi enti di area vasta. E simulando appunto sul personale, tenendo presente che il fabbisogno di personale di tutte le aree vaste nuove sarà di 13.611 unità, più un totale di dipendenti che ci sono, insomma, il succo finale è che ci sarebbero 20.593 persone di troppo attualmente occupate nelle province con la riforma. 20.593 persone di troppo. Che fare? Licenziarle? Nemmeno per idea, da riallocare. Questa è la formula della riforma. Questo studio, lo studio di Sose e Nomisma, prevedono questo: riallocarle tra regioni e comuni. C'è da dire, mi è venuto istintivamente su Twitter, ma poi dopo ti accusano: ah, sei una persona che vuole far perdere il posto. Io non voglio far perdere il posto di lavoro a nessuno. Mi chiedo se nel privato ci si comporta così come nel pubblico, perché molti dicono non c'è la macelleria sociale. La macelleria sociale, se qualcuno vede nel privato, in tante situazioni si fa brutalmente dal giorno alla notte. In questo caso invece ci sono 20.593 persone che per via di una riforma sono di troppo, nel senso che non saranno più necessarie come posti di lavoro. Che si farà? Si riallocano in regioni e comuni, che da quel momento funzioneranno alla perfezione con 20.593 persone in più. Voglio immaginare e sperare, come una macchina appena oliata funzioneranno con tutti gli ingranaggi alla perfezione. Staremo a vedere, perché bisogna sempre essere ottimisti. Mentre intanto si è svelato il mistero, almeno parzialmente, della visita di Matteo Salvini, leader della Lega Nord, in Corea del Nord, per l'appunto. nel senso che oggi fa 3 interviste, non di meno, al Corriere della Sera, al Messaggero e alla Stampa, per raccontare perché diavolo è andato in Corea del Nord. È un Matteo Salvini che obiettivamente rilascia delle dichiarazioni che fanno come minimo sobbalzare. Vabbè, sono un tipo curioso, sono andato in Corea, mi sono pagato il viaggio, invece che fare le vacanze in Sardegna sono andato in Corea del Nord, e fin qui incuriosisce moltissimo anche a me la Corea del Nord, ci andrei subito, e quindi fino a qui nulla di male. Ma poi sentite, è un paese molto diverso dal nostro, è un'opportunità gigantesca per i nostri imprenditori, e anche fino a qui posso crederci. Ha bisogno di molte cose, l'embargo nei loro confronti è idiota. Ma poi inizia a parlare della Corea del Nord, ne parla come la Svizzera. Premesso che non cambierei la mia vita con quella che si conduce in Corea del Nord, la pena di morte c'è anche negli Stati Uniti. Questo è un gran classico di frasi. Per quanto riguarda la libertà di stampa, lì certo non fanno altro che parlare del leader Kim Jong-un, ma da noi non si cantano le lodi a Renzi tutti i santi giorni. Ma Salvini, ma siamo un paragone un po' azzardato. E infatti Massimo Rebotti del Corriere dice non è proprio la stessa cosa. Guardi, io non baratterei la mia libertà, si tratta però di un modello che non demonizzo, non indico né come un inferno un sistema che non conosco. Lì in Corea lo Stato dà tutto: casa, scuola, lavoro. Insomma, al mondo non c'è solo lo stile di vita americano. Mi interessano anche gli stili cinese, India, Russia. Andrò in autunno in Russia. Sono contento di esserci andato in Corea. Ho visto un senso di comunità splendido. Bambini che giocano in strada e non con le PlayStation. Grande rispetto per gli anziani, cose che ormai in Italia non ci sono più. Oh, dobbiamo imparare dalla Corea del Nord, secondo Salvini. Ecco, e anche qui sulla Stampa, eccolo qua, c'è la foto con Park Do-ik, colui che ci fece il gol ai mondiali del 1966. Titolo: Salvini, ha ragione Razzi, la Corea è come la Svizzera. Forse questo titolo è un po' esagerato. Comunque, in Corea non ci sono criminalità e prostituzione. Al che Alberto Mattioli della Stampa gli dice: beh, il gulag è un buon deterrente, o no? Anch'io avevo un giudizio negativo prima di andar là, ora lo è meno, è importante vedere di persona. E vabbè, Salvini folgorato sulla via di Pyongyang. Questa è una roba abbastanza per me incredibile e spiegabile, ma è il bello della politica. Oh, intanto, a proposito di immigrati citati da Salvini anche nell'intervista al Messaggero, dicendo in Nord Corea non hanno di questi problemi, i problemi di immigrazione oltre che di prostituzione, c'è questa frase, questo post di Beppe Grillo, che invece ha suscitato molte polemiche, anche pare tra i suoi. Grillo, shock sui migranti malati, praticamente ha detto ci portano la TBC. Non bastano le smentite continue, come racconta Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, pagina 20. L'allarme lanciato di uno dei sindacati della Polizia di Stato dicendo portano la tubercolosi, in realtà il direttore centrale di sanità Roberto Santarosa ha precisato che nessun agente si è mai ammalato di tubercolosi, semplicemente sono risultati positivi al test che prova l'esposizione al batterio, precisando si tratta di test che, se fatti in qualsiasi redazione o in qualsiasi scuola, riscontrerebbero il 10% di casi positivi. Quindi, caro Peter Bescapè, se vengono qua in redazione a fare questo test, magari sei esposto al batterio della TBC. Sappilo. A proposito di immigrati, parleremo anche di questa vicenda di Iesi, dove quello che viene definito da Libero il cabobo di Iesi, arrestato già 4 volte in 8 mesi, tutte le volte rilasciato, in un caso aveva preso anche a testate un militare, racconta Libero con Andrea Morigi, si è trovato ancora in questa situazione a minacciare le persone con un macete in mano. Ne parleremo col sindaco di Iesi. Voglio, prima della pubblicità, però raccontarvi la storia di un altro immigrato particolare, colui che racconta il secolo XIX, è stato un turista americano 50 anni fa a Lerici, era in vacanza nel 1964, lasciò la Vespa in divieto, prese una multa dai vigili del 1964 e ieri al comando dei dai vigili urbani di, Iesi, di Lerici si sono visti recapitare una busta con dentro $50, proveniva da Phoenix, Arizona, mittente Robert Etherton, con tanto di biglietto di scuse, vi invio $50, vi chiedo scusa, mi ero dimenticato di saldare la multa del 1964. La storia in prima pagina del secolo XIX, una storia straordinaria di civiltà, se volete, anche senza dubbio. La storia è proprio questa, Lerici, la multa pagata 50 anni dopo, la racconta Sondra Coggio, turista americano, spedisce $50 dicendo scusate, mi ero scordato, ma nel 1964 avevo preso questa multa. Al comando dei vigili urbani di Lerici, quando hanno aperto la multa, sono sbiancati. Sono, non so, forse abituati a gente che non la paga, che l'ha presa ieri, e invece, ecco qua, pubblicità. In questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno sfacciate per verità qui. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:34 minuti per raccontare quello che c'è sui giornali e la politica italiana. Certo, da segnalare oggi che il direttore del Sole 24 Ore, il nostro direttore Roberto Napoletano, ha intervistato Matteo Renzi. L'intervista è in prima pagina del Sole 24 Ore, poi a pagina 2 e 3, una lunga intervista, lungo di due pagine, si parla a tutto campo dei temi economici, soprattutto a partire dagli 80 euro chiede Napoletano, si sente di impegnare i 10 miliardi per ridurre il costo del lavoro privato, e risponde Renzi nel modo più categorico, rispondo di no, ho un'opinione radicalmente diversa, ritengo prematura la valutazione degli effetti del bonus sull'economia, abbiamo voluto il bonus da 80 euro per un senso di giustizia sociale e sostenere il potere d'acquisto del ceto medio. Che sia sbagliato questa linea lo pensa lei, caro direttore. Il bonus darà i suoi effetti perché verrà confermato e percepito finalmente come strutturale. Deve essere stabile e percepito come tale. Il ceto medio ha bisogno di respirare. E poi sulla riforma del lavoro, altro punto chiave. Introdurremo in Italia il modello di lavoro tedesco, non quello spagnolo, dice Matteo Renzi. La domanda del direttore se verrà introdotto il contratto a tempo indeterminato flessibile, che vuol dire anche superamento dell'articolo 18 e della reintegra obbligatoria, risponde il Premier, quella è la direzione di marcia, mi sembra ovvio, sarà possibile solo se si cambierà il sistema delle tutele. Poi la spending review, e qui Renzi dà una cifra. Tagli da effettuare per 17 miliardi, chiede Napoletano, e dice, risponde Renzi, saremo pronti a fare tagli non di 17 miliardi, ma ne immagino 20, perché intendo liberare risorse da investire nei settori strategici come l'istruzione e la ricerca senza aumentare le tasse. Quindi 20 i miliardi nel 2015 risparmiati dai tagli della spesa, questo dice Renzi, che poi fuga ancora i dubbi sul rapporto con Cottarelli. Cottarelli ha la mia fiducia, così come quella di Piercarlo, cioè il ministro dell'economia Padoan. Ha chiesto di tornare a Washington al Fondo Monetario, ma io gli ho chiesto di restare. Vedremo se riusciremo a trattenerlo. In ogni caso, conferma ancora Renzi, la spending si fa per circa 20 miliardi. Parla poi di fantapolitica quando gli si chiede del rimpasto di governo. La squadra è questa e non si tocca. A tempo debito sostituiremo solo il ministro degli esteri. Ovviamente si parla di tante altre tematiche. L'intervista che trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. Il titolo a pagina 2 è: rispetteremo il 3%, ma flessibilità sui tempi del fiscal compact. E poi tagli di spesa 20 miliardi nel 2015. A Cottarelli ho chiesto di restare. Questo è il sunto molto stringato dell'intervista. A proposito però della rimpasto di governo, c'è una notizia che viene diffusa dalla stampa, da Ugo Magri, che racconta un retroscena abbastanza incredibile se confermato, e cioè che il ministro, o meglio sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio, sarebbe pronto a lasciare il governo. È una notizia, se confermata, ripeto, clamorosa, sarebbe pronto a lasciare il governo per tentare la corsa alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Tra l'altro il tempo per decidere è stretto, ci vogliono circa 7 giorni perché poi vanno presentate le candidature, credo più o meno. E comunque Ugo Magri scrive: Del Rio medita l'addio al governo per la regione Emilia-Romagna. Staremo a vedere. Per quel che riguarda, al di là dell'intervista, oggi invece c'è l'attesa per la questione della scuola. Oggi credo alle 10 si scoprirà sul sito passodopopasso.italia.it, quello lanciato un paio di giorni fa da Matteo Renzi, quelle che sono le linee direttive del nuovo patto sulla scuola. Racconta Corrado Zunino a pagina 15 di Repubblica, si depanerà così la proposta di governo, non una riforma ma un patto educativo libero da vincoli finanziari immediati. Il Premier ieri sulla nota politica ha annunciato la discussione di tutto il paese per 2 mesi sul tema della scuola, poi a ottobre sono annunciate le risorse, a novembre le proposte nel dettaglio, all'inizio del 2015 ci saranno i decreti di governo e solo nel 2015 inoltrato la discussione con i sindacati per un contratto che manca da 7 anni. Dunque una riforma della scuola che arriva online, appunto, passo dopo passo, con la discussione anche con i cittadini. Vabbè, Renzi però da chi si deve difendere? C'è un Silvio Berlusconi, racconta il Corriere della Sera, che è un Silvio Berlusconi di attesa. Forza Italia scalpita, racconta Paola Di Caro sul Corriere a pagina 8, un Berlusconi che dice ai suoi di essere convinto che ci sono stati solo provvedimenti annunciati, provvedimenti che sono davvero poca cosa. Queste le frasi attribuite a Berlusconi. Annunci, non c'è un soldo, non c'è una novità, veramente deludente. Eppure, questo è il punto interessante del retroscena politico, Silvio Berlusconi non è pronto ad attaccare a testa bassa Renzi, pensa che sia ancora popolare, pensa che sia un boomerang dal punto di vista elettorale attaccarlo, perché così rischiamo di fare come i grillini, e quindi non c'è una opposizione dura da parte di Silvio Berlusconi a Renzi. L'opposizione invece Renzi, come spesso succede al leader del PD, rischia di trovarsela all'interno. Ieri Massimo D'Alema, in una delle feste dell'Unità, attaccato Renzi dicendo che gli sforzi del governo ci sono ma i risultati sono non efficaci fino a questo momento. Renzi annuncia, D'Alema lo boccia. Questo è il titolo impietoso del Secolo XIX a pagina 3 con l'articolo di Sonia Oranges, ma tutti i giornali raccontano, anche il Corriere, ecco qua, l'altro PD rialza la testa, D'Alema, non siamo il partito del Premier. E ancora Repubblica, PD, D'Alema, boccia Renzi, risultati insoddisfacenti, il partito così è a rischio. Sempre così, molti hanno fatto notare che probabilmente Massimo D'Alema sperava, sognava, agognava di poter occupare quella poltrona di alto rappresentante della politica estera europea occupata da Federica Mogherini, e quindi, come dire, ha un po' il dente avvelenato in questo momento nei confronti di Matteo Renzi, premier e segretario del suo partito. Vabbè, e c'è tutto l'aspetto della politica internazionale anche, che a questo punto vorrei affrontare. La politica internazionale, ci sono molti giornali che aprono su questo tema, soprattutto sull'esecuzione nei confronti del giornalista americano. È il secondo giornalista americano che è stato giustiziato dai fanatici, così bisogna definirli, dell'ISIS. Le foto sono davvero molto molto dure, parlano di barbarie come armi da guerra, così gli islamisti fanno proseliti. Questo per esempio è il titolo della Stampa, e su questo ci concentreremo tra poco anche con tanti editoriali. Prima però voglio salutare il nostro Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Il nostro Mauro, buongiorno, come va Mauro? Buongiorno, tutto bene, voi? Tutto benissimo, procede. È fantastico, anche perché stavo leggendo questo Andy Rivieni sul decreto legge Sblocca Italia, che è molto sbloccato, non so se hai letto sul Sole 24 Ore di oggi, Alessandro. Come no? No, per ora abbiamo letto solo l'intervista a Renzi a pagina 2 e 3, però... No, beh certo, ma la, quello lì ovviamente è il nostro piatto forte, ci sono tutta una serie di indicazioni che lasciamo alla riflessione dei lettori, però poco oltre parliamo dello sblocca Italia, è molto sbloccato perché le cose vanno e vengono nello sblocca Italia, come nella poesia le donne vanno e vengono, parlando di Michelangelo, ecco qui invece diciamo che le cose vanno e vengono nel decreto sblocca Italia. Comunque insomma vedremo, troverà stabilità prima o poi, noi ne siamo certi e fiduciosi. Caro Alessandro, tu conosci l'F24? L'F24, sì, che non è l'F35, ma è una questione fiscale, certo, come no, l'F24. Molto bene. Tutte le partite IVA la conoscono, l'F24. Sono contento di trovarti preparato, anche perché sai che oggi è il giorno della scuola. Infatti, ripartiamo con gli esamini del professor Meazza. No, ma oggi è un giorno in cui dobbiamo varare le linee guida per la scuola. Quindi è uno school day, non lo so, insomma adesso non so quale sarà l'hashtag che verrà utilizzato, ma allora è bene che tu sia preparato e che noi due siamo preparati anche nei confronti degli ascoltatori. Bene, volevo però dirti che l'F24 dal 1 ottobre bisogna farlo online se vai sopra i 1000 euro. Tu dici... bisogna attrezzarsi, perché metti che la tua banca ti faccia pagare le estensioni online, come dire, bisogna arrivarci preparati come sempre, insomma, con le novità fiscali, e quindi consiglio la lettura una volta di più delle pagine di norme e tributi di oggi, così ti aggiorni, diciamo, completi la tua formazione e non facciamo brutta figura anche di fronte all'Europa che, come sai, sempre ci guarda. Certo. Senti, hai visto che il risparmio gestito comunque continua a volare? Lo leggi nelle pagine di finanza, stavolta ti sorprendo, non ti parlo di norme tributarie ma di finanza, perché nelle pagine di finanza apprendo che abbiamo un ulteriore record nella raccolta dei fondi comuni, questo sta a dire che insomma la liquidità c'è, però purtroppo non va dove vorremmo che andasse, cioè negli investimenti, ma del tema, come dire, discutono anche il nostro direttore e il presidente del Consiglio Matteo Renzi nella già citata intervista, pagine 2 e 3. Allora, caro Alessandro, questo per quanto riguarda la giornata di oggi, tu sei... Del domani non c'è certezza. Del domani vedremo che cosa entra e esce nello sblocca Italia, secondo me. Anche nel disegno di legge sulla parte degli appalti pubblici mi sembra che ci sia un certo movimento, però del resto, trattandosi di cantieri, cosa vuoi? Anche il decreto diventa un cantiere. Mi sembra giusto. Per meglio dire, con una sola parola, esatto, in questi decreti c'è, diciamolo, lo dico? Dillo. A questo punto lo dico, c'è traffico! Alessandro Milan, con la sua sexy voce, ti sveglio ogni mattina. Eccoci qua, allora le immagini terribili per l'ennesima volta dopo l'esecuzione di James Foley provengono dalla Siria, o se volete il confine tra Siria e Iraq, per l'esecuzione, la decapitazione di Steven Sotloff, decapitato dall'ISIS. Il video è stato diffuso ieri sera e Lorenzo Cremonesi a pagina 2 del Corriere della Sera racconta nei dettagli quello che è questo video, che è simile a quello dell'altra volta, cioè un proclama prima evidentemente estorto alla vittima, che dice: questo è il mio messaggio, Obama, avevi promesso di proteggere le nostre esistenze, perché devo pagare per la tua politica? Non sono un cittadino americano, abbiamo speso milioni di dollari nella nostra guerra contro lo Stato Islamico, dov'era l'interesse del popolo americano? Avevi promesso di portare le nostre truppe a casa dall'Iraq, Afghanistan e chiudere Guantanamo, ora sei alla fine del tuo mandato, non hai raggiunto alcun obiettivo. Poi, come racconta Cremonese, la volta del boia, parla meno e esordisce dicendo: sono tornato Obama. E poi la spietata esecuzione, tra l'altro viene già riconosciuto, individuata la prossima vittima, questa è la minaccia dell'ISIS, questa volta è un cittadino britannico, David Cawthorn Haynes, sparito in Siria nel 2013. Come racconta il Corriere della Sera, ora c'è il timore ovviamente anche per le due italiane, le due cooperanti che sono state rapite in Siria, Vanessa Marzullo, 20 anni, di Brembate in provincia di Bergamo, e Greta Ramelli, 21 anni, di Besozzo in provincia di Varese, sequestrate il 6 agosto scorso. di loro si sa poco. Certo, c'è il proverbiale silenzio della Farnesina, come racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 5 del Corriere della Sera. L'unico contatto avvenuto una decina di giorni fa è servito a rassicurare sulla buona salute delle ragazze che sono state affidate, secondo ovviamente quello che i servizi di intelligence hanno potuto capire, in un gruppo di appartenenza e connotazione politica, tra virgolette, questo scrive Fiorenza Sarzanini, ma non sono gestite direttamente dall'ISIS. Per questo la Farnesina ha più volte evidenziato la necessità di mantenere il massimo riservo sulle trattative avviate per evitare di far salire il prezzo degli ostaggi e impedire che possano essere cedute a altre formazioni intenzionate a utilizzarle per la propaganda dei fondamentalisti. Così come non si sa più nulla di padre Paolo Dall'Oglio, dato prima per morto, poi forse vivo, come non si sa nulla di Giovanni Lo Porto, racconta ancora il Corriere della Sera, sparito, pensate, il 19 gennaio 2012 in Pakistan. E anche Marco Vallisa di Cadeo in provincia di Piacenza, rapito in Libia lo scorso 5 luglio, così come Gianluca Salviato, 48 anni, di Trebaseleghe in provincia di Padova, rapito in Libia il 22 marzo del 2014. Ecco, questi sono gli italiani di cui non si sa al momento granché e che sono stati rapiti in vari teatri del mondo. Domenico Quirico, che ha sperimentato sulla propria pelle come inviato della Stampa il rapimento in Siria, racconta la condanna terribile di quel presto, cioè la parola che si è sentito dire anche questo cittadino britannico: presto sarai morto. E il terrore, scrive Quirico, gli stava dentro, nel profondo, terrore, certezza assoluta. Mai più, pensava, mai più vedrò questo luogo, altri, la faccia dei miei amici, mai più. Quando verrà quel presto? Non si riesce nemmeno a pensare non voglio morire. Ogni volta che si vuole formare quella frase ti viene in mente prepotente morirò, e presto. Presto, che terribile parola, ma quando è presto? Un secondo, un anno? Quel presto a te, ostaggio, vittima già designata, comprime il futuro, lo rimpicciolisce, non c'è nulla di certo, nulla di nulla, è l'incertezza assoluta. Presto è la morte, presto sarò morto. Qualcuno fuori di te lo ha detto, che quel presto si realizzerà, e qualcosa dentro di te lo conferma. A ogni modo sarà prima che questa guerra infernale finisca, ma quando finirà questa guerra? Può passare un anno prima che le milizie islamiche cedano il terreno, gli americani comunque bombarderanno, e allora non vedrò la pace, niente pace, non ci sarà più nulla per me, più nessuna gioia umana. L'America non tratta coi terroristi, l'America non paga riscatti. Il triste machiavellismo degli implacabili che non getta nulla in pasto al Minotauro. Presto morirò. Per gli altri ostaggi forse denaro, mercati, trattative, ma per lui nulla. Tutto questo non ci sarà, il futuro non ha più volto quando sei ostaggio, ostaggio senza speranza, a un certo punto è mozzo. E più ci si pensa, più ci si rende conto di quanto è ormai vicino a quel presto. Non ci sono più sogni. Così Domenico Quirico, che evidentemente ha sperimentato anche le stesse sensazioni che hanno vissuto, per lui fortunatamente poi è finita bene, non per questi colleghi, James Foley e Steven Sotloff, che sono stati uccisi barbaramente in Siria. Parleremo invece di quello che sta succedendo tra Mosca e Ucraina, tra Mosca e Kiev, con il nuovo appello di Lady Pesk, cioè Federica Mogherini, che dice Mosca non è più un partner strategico. Racconta Repubblica che però c'è un rapporto segreto che infiamma e sconvolge la NATO, e cioè che racconta lo Spiegel, il settimanale tedesco, lo Spiegel Online, davanti alla lenta manovra a tenaglia condotta su tre fronti, l'Ucraina del presidente Poroshenko ha già perso praticamente un'eventuale guerra, un'eventuale azione militare. Avrebbe già, secondo questo rapporto segreto della NATO, il risultato di una vittoria netta da parte della Russia. Racconta tra l'altro il Sole 24 Ore come questa situazione, il blocco, l'embargo nei confronti della Russia, porti al rischio di un made in Italy che rischia di perdere almeno 1 miliardo di esportazioni. Parleremo anche di questo alle 9. Che dire, voglio segnalare questo articolo riguardante un mio mito calcistico, Gennaro Ringhio Gattuso, che è stato prosciolto da tutte le accuse, era finito nel calderone delle accuse di calcio scommesse dalla procura di Cremona. La sua vicenda è stata archiviata, nel dispositivo si legge anche l'indagine gli ha causato un danno professionale, fa uno sfogo al giornale, come racconta Luca Fazzo. Ora dove sono le telecamere che quella mattina alle 6 erano sotto casa mia quando sono arrivati a notificarmi l'atto? Ho sofferto, non sarò né il primo né l'ultimo. E il giornale fa tutto questo articolo dicendo: Gattuso infangato e prosciolto, ora dove sono le televisioni? Lui che ora allena in Grecia, incriminato per associazione a delinquere nel caso calcio scommesse, e archiviato il tutto. E va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Mattia Feltri, che ti combina? Mattia! Un'intera pagina sulla Stampa, pagina 13, su che cosa? Copertine, gossip, canzoni, l'estate della Boschi mania. La Boschi, le treccine, si è fidanzata, non si è fidanzata, il gossip sul ministro Maria Elena Boschi, ha cambiato il colore dei capelli, si starà fidanzando? Così inizia l'articolo, Feltri! La carta costa, ricordiamocelo, ricordatevelo tutti, che la carta costa. Oh, il pubblico, ascoltate me in questo istante, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. 24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, io mi chiedo da un paio di giorni che paese è la nostra amata Italia, quello in cui un sindaco arriva a scrivere una lettera a Dio per chiedergli di aiutarlo a debellare il problema dell'assenteismo dei dipendenti comunali, perché non ci sono altri mezzi, non sono rimasti. Sarà senz'altro una provocazione, ma mi sono chiesto, pensa se una notizia del genere arriva in Germania, un cittadino della Germania, poi a quel cittadino tedesco andiamo a chiedere un po' più di flessibilità, no? Anziché mantenere il rigore dei conti. Io, se fossi quel cittadino tedesco che magari all'epoca di Schröder il cancelliere ha visto delle riforme sanguinose, ho fatto dei sacrifici, ho visto sulla mia pelle queste riforme, adesso sto meglio perché vedo uno Stato che ha i conti un po' più a posto di prima, sarei spinto a assicurare maggiore flessibilità agli italiani, o forse sarei spinto da un insano pensiero di prendere una bella Panzer Division, invaderci e insegnarci come si fa. Vabbè, prendete anche questa come provocazione, come senz'altro una provocazione è stata quella del sindaco di Locri, che saluto, si tratta di Giovanni Calabrese. Buongiorno sindaco e benvenuto. Grazie per essere lei con noi. Abbiamo chiamato anche il sottosegretario alla pubblica amministrazione, sottosegretario alla semplificazione della pubblica amministrazione del Partito Democratico, Angelo Rughetti. Sottosegretario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Perché lei ci potrà certamente aiutare a capire, a partire, perché sa, poi si parla tanto di riforma della pubblica amministrazione, ma poi si parte anche da casi piccoli, se vuole, concreti, simbolici, come quello del sindaco di Locri. Sindaco, che le è venuto in mente? Lei proprio, vabbè, sapeva di finire sui giornali con questa cosa e di finire a essere intervistato un po' da tutti, intanto, no? Cioè, non era questo l'obiettivo. L'obiettivo è sicuramente quello di cercare di svegliare la coscienza dei miei dipendenti comunali, anche perché veramente io spesso sono impossibilitato nel pianificare, programmare i servizi che devono dare ai cittadini per queste continue improvvise assenze, quanto per malattie, quanto per altro dei miei dipendenti. Mi faccia capire una cosa, ci dica due numeri, quanti abitanti, quanti dipendenti comunali ci sono, quanti abitanti allora, hanno? Lodi ha 13.000 abitanti, ma noi eroghiamo servizi per molti di più, in quanto siamo sede di tribunale, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dell'ospedale unico del comprensorio della Locride, e quindi eroghiamo servizi, diciamo, di più rispetto a quello che sono le esigenze della popolazione. Vabbè, e abbiamo chiusa, abbiamo un organico dal 1 settembre di 96 dipendenti, perché erano 125, 13 abbiamo prepensionati col decreto 101, altri 17 andranno in disponibilità. Okay. 96 dipendenti, di questi è vero che quanti lavorano abitualmente? Lei proprio in questa lettera che inizia così: divinissimo Signore Gesù Cristo, mi rivolgo a te in ultima istanza, non sapendo a chi altro rivolgermi, dice che sono pochissimi quelli che lavorano. Sono effettivamente, non sono tanti quelli che lavorano in modo serio, in modo adeguato e rispettosi del posto di lavoro. Tenga conto che noi siamo in un territorio dove c'è una disoccupazione che supera il 50%. Dovrebbe onorarlo intanto. Onorarlo. Purtroppo qui non è così, da qui ecco lo sfogo, ma in ogni caso prima dello sfogo c'erano stati una serie di atti importanti e dai quali mi attendo anche risposte. Sono certo, avendo io fiducia nell'istituzione, che arriveranno le risposte. Quindi quanti lavorano? Non c'è un numero non c'è una percentuale precisa. Insomma, la verità è che noi abbiamo difficoltà ad erogare i servizi alla cittadinanza. Ma è vero che lei ha dovuto guidare una volta il pulmino per i disabili? Assolutamente sì, non lo guido, ho fatto l'assistente scuolabus, in quanto il dipendente che gli era stato richiesto di sostituire l'assistente scuolabus che aveva malattia infraria, se non ricordo, e aveva detto di sì la mattina che doveva prestare il servizio, si è improvvisamente ammalato anche lui. Onde evitare di fermare un servizio importante quale quello dell'assistenza ai bambini diversamente abili, mi sono sostituito tranquillamente, l'ho fatto veramente con convinzione, tra l'altro un servizio qualificante, anche solamente un importante. Ma senza dubbio, oltre che importante, sicuramente formativo. Lei ha detto anche in passato di avere fatto provvedimenti disciplinari, di essersi rivolto ai carabinieri, alla guardia di finanza, eppure non è servito. Ma com'è possibile? Cioè? No, non è che non è servito, ci sono i tempi delle verifiche, delle indagini, ma io ho fiducia nelle istituzioni alle quali mi sono rivolto, un dialogo costante, e per la prima volta c'è un sindaco in un territorio difficile che ha il coraggio di denunciare determinate cose, ed è giusto che sia così, anche perché sono convinto che non esiste un caso Loghi, esiste un caso pubblica amministrazione, in modo particolare nel sud. Sono convinto che in tantissimi altri enti locali ci siano situazioni non molto diverse rispetto a quelle che ci sono. Guardi, la scorsa volta quando ho letto in rassegna stampa, quando è finito su Repubblica l'attenzione nazionale, mi hanno scritto tantissimi anche ascoltatori che poi sono amministratori locali, ex amministratori locali, e che invito a chiamare all'800 24 0024 per dire la loro e la loro esperienza. Sottosegretario Rughetti, vai, partiamo da qui. È stata una provocazione quella del sindaco di Locri, ma che mette il dito nella piaga di un problema che c'è, che è molto diffuso. Una riforma della pubblica amministrazione di cui tanto si discute, come reagire a questo tipo di notizie? Davvero un sindaco alle armi spuntate deve rivolgersi a Dio? Guardi, intanto diciamo, la prima reazione mia personale è stata veramente di sdegno e di sorpresa, ma non tanto diciamo, per l'atto del sindaco, che è un atto, diciamo, se mi consente, quasi di disperazione, ma per come una comunità che diciamo, paga le tasse sul suo territorio, dovrebbe ricevere servizi, e invece si vede, tra virgolette, abbandonata da quelli che dovrebbero essere i suoi servitori. Quindi la prima cosa che mi chiedo è perché in Italia non c'è questa coscienza civica, questo valore civile, questo diritto di cittadinanza, di intendere la pubblica amministrazione come un luogo che è fatto per dare servizi, come dicono gli inglesi, civil servant, e invece qui non solo non si danno servizi, ma si prende lo stipendio senza lavorare. Dall'altro, questo nasconde diciamo, un tema che è un tema centrale, che in parte diciamo, è quello dell'assenteismo, che è uno dei modi attraverso i quali poi si manifesta, ma che è quello della produttività. Il problema italiano è che noi abbiamo più o meno gli stessi dipendenti pubblici della media europea, ma abbiamo della produttività bassissima, perché noi abbiamo degli uffici pubblici che si reggono sulle spalle di lavoratori che ci mettono la passione, l'impegno oltre quello che gli è richiesto, e che si sostituiscono a tanti altri che invece diciamo, si acquattano o si nascondono dietro le scrivanie. Allora io su questo, la riforma della pubblica amministrazione, quando noi abbiamo detto andiamo a rompere uno schema, che è lo schema che in questi anni ha prodotto cosa? Ha prodotto che il più grande garantisce il più piccolo, che le cordate interne, sindacali o meno, difendono delle strutture più o meno efficienti, che si dà tutto a tutti allo stesso modo. Andiamo a rompere questo schema, l'abbiamo fatto prima col decreto legge e poi col disegno di legge, ma con questo obiettivo, cioè ridare produttività e dignità ad un lavoro. Ma le chiedo, questo... che cosa impedisce, qual è secondo lei l'ostacolo più grande che impedisce tutto ciò? Glielo dico io e poi lei mi dice o sì o no, i sindacati? No, io le dico che quello che impedisce è che è tutto uguale. Cioè il problema nostro è che se ci sono dipendenti che lavorano... Eh sì, ma chi è che mantiene questo diciamo comunismo trasversale? Questo comunismo trasversale è dato da regole che non consentono di differenziare, perché sono fatte apposta per rendere difficile una cosa che è facile, pensiamo al tema della valutazione. E dall'altro è dato ad una serie di incrostazioni che si sono mantenute dentro le singole strutture che portano ad uno status quo. Oggi lo dice il Presidente del Consiglio in bella intervista fatta al 24 ore. Normalmente le persone quando noi ci parliamo ci dicono ma non si è mai fatto così. Non ci dicono, ci danno una soluzione per migliorare lo status quo, cioè non si è mai fatto così e quindi dobbiamo continuare a fare così. Ecco, noi dobbiamo rompere questo andazzo, questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Sì, ma questo guardi, sottosegretario, noi ne parliamo qua da due giorni, anche ieri c'era anche Giorgio Mulè, direttore di Panorama, che ha detto tra l'altro solo Renzi ha un mandato elettorale così forte che se non lo fa lui in questo momento, voglio dire, lui nel senso voi come squadra di governo, chi altri lo può fare per il mandato elettorale che avete avuto anche recentemente alle europee. Però tra poco magari arriviamo alla questione della riforma della pubblica amministrazione, ma mi dica concretamente questo sindaco cosa può fare? Cioè ci sta dicendo che tutto quello che ha fatto, ci sono i tempi poi delle eventuali sanzioni disciplinari, non ha portato a nulla, cioè in concreto che cosa può fare? Può cacciarli, può licenziarli? Ma purtroppo, come sappiamo, il nostro ordinamento da questo punto di vista è molto complicato. Lui può segnalare all'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza sul territorio, quello che è accaduto, ci devono essere delle verifiche puntuali, si può fare un'azione disciplinare interna che ovviamente anche quella ha i suoi tempi perché ci sono i comitati interni dei garanti che devono fare i contraddittori e le valutazioni, alla fine della quale si arriverà ad una soluzione. Anche qui però l'importante poi è che il procedimento finisca, cioè io mi aspetto che nel momento in cui a Locri come in qualsiasi altro comune si verificherà con puntualità che quel giorno Angelo Rughetti invece di andare a lavorare era a casa a girarsi i pollici e quindi ha tolto il servizio, venga mandato a casa. Cioè non aspetto che poi si reintegri meccanismi di TAR che arrivano, che si sovrappongono e poi si va al Consiglio di Stato e alla fine quel dipendente va a lavorare come tu torna a lavorare come tutti gli altri. Seconda cosa, mi aspetto che la comunità di Locri, come la comunità di tutti gli altri comuni italiani che soffrono diciamo la mancata competitività e produzione dei dipendenti, reagisca. Comunichi il suo sdegno per essere costretta a pagare degli stipendi pubblici che non si traducono in servizi. Questo è un tema molto interessante, sindaco calabrese. Come ha reagito la cittadinanza? Cioè la cittadinanza ha la percezione del fatto che non è una battaglia, al di là della battaglia che lei può fare anche con mosse magari provocatorie, non ha la sensazione che se poi va al pronto soccorso e al pronto soccorso non c'è qualcuno, o agli uffici comunali non c'è qualcuno, è perché qualcun altro si è infrattato, non lavora e quindi reagisce la comunità a questo? Ma guardi, io penso che la cittadinanza di Locri, della Locri in generale, è un po' stanca dei servizi che ci sono nel sud Italia, in modo particolare in questo lembo di territorio già disagiato e sfortunato. Non si reagisce con manifestazioni plateali, però da quella percezione che io, che la cittadinanza sta apprezzando queste iniziative, anche perché il cittadino è stanco di vedere che molti servizi non vengono erogati, e quindi questo insomma ritengo un segnale importante anche di cambiamento in questo territorio difficile. Le chiedo, sindaco, guardi che molti ascoltatori ci scrivono anche via sms come la scorsa volta a dire ma guarda, ci sono dei paesi dove 6.000 abitanti, mi scrive questo ascoltatore, 8 dipendenti abbiamo, questo per la percentuale dei dipendenti comunali. Lei ci ha detto è vero, avete il tribunale, avete l'ospedale, però insomma anche altre cittadine di 13.000 abitanti hanno il tribunale, hanno gli ospedali in Italia, non sono troppi 96 dipendenti? Non so quanti abitanti hanno queste cittadine che sono sede di tribunale, non penso che abbiano un numero di popolazione inferiore a quello di Locri. In ogni caso il problema, noi siamo in linea con i parametri nazionali e noi abbiamo un numero di dipendenti che è previsto. Poi tenga conto che la metà di questi dipendenti sono part time, attenzione. Quindi anche questo di fatto si riducono del 50% poi. Sì. Ma come hanno reagito? Cioè lei quando entra in comune e quando ha a che fare con i dipendenti, alcuni dei dipendenti comunali che la guardano, dicono, e che le hanno detto dopo che ma guardi, un ottimo rapporto con tutti. Molti dipendenti comunali mi hanno manifestato apprezzamento, e anche perché si rendono conto effettivamente che poi alla fine sono pochi quelli che lavorano e fanno anche il lavoro di quelli che non lavorano. Poi il 27 euro lo stipendio uguale per tutti. Appunto, come diceva appunto il sottosegretario, non ritengo che sia corretto. Tra l'altro ci dimentichiamo che questi dipendenti sono pagati con i nostri soldi, i soldi dei cittadini. Ma è chiaro, sono dipendenti pubblici, sono dipendenti dello Stato. E quindi inaccettabile, sia per quella parte dei dipendenti che lavora, sia per i cittadini. Sì, ho capito, però ci ha fatto capire lei, sottosegretario Rughetti, che al momento ci sono delle regole che non permettono di prendere quello che suda il proprio salario, al 27 del mese lo riceve perché puntualmente si è presentato e magari ha lavorato anche per due per coprire le mancanze di un altro, e quello che invece l'ha rubato questo stipendio. Sottosegretario, cioè cosa impedisce di mettere un sistema che anche nel pubblico possa valere come nel privato? Si chiama meritocrazia, che è una cosa che dal punto di vista teorico ci raccontano che in questo paese esiste da tempo. La riforma Brunetta è stata venduta come la più grande riforma che ha portato la meritocrazia nel paese. Dal punto di vista sostanziale cosa succede? Succede che poi ci sono degli accordi territoriali dove vengono scritte le regole in base alle quali si premiano e si pagano i dipendenti, dove prevale la logica della distribuzione a pioggia, e quindi alla fine c'è un appiattimento verso il basso, perché non c'è uno stimolo a far meglio, ma c'è uno stimolo a emulare, diciamo, quello che sta più basso nella catena della produzione. Noi stiamo cercando di romperlo questo schema, mettendo tra virgolette in competizione i dipendenti, mettendo in competizione i servizi. Perché la cosa assurda che fino ad oggi non abbiamo vissuto è che abbiamo avuto servizi erogati, come dire, non percepiti positivamente dalla popolazione, per utilizzare un eufemismo, e dall'altro lato invece i capi delle strutture, i dirigenti che hanno ricevuto il 100% della valutazione positiva. Allora noi abbiamo detto queste due cose non possono andare bene, perché se io vado in un ufficio e non ricevo i miei servizi, il dirigente di quell'ufficio non può ricevere il massimo del suo stipendio. Sì. E abbiamo detto, allora iniziamo dalla testa, iniziamo a dire che i dirigenti non vengono valutati per quello che sono, ma per quello che fanno. Dirigenti, ma per quello che fanno. E non vengono valutati soltanto personalmente, ma vengono valutate le strutture a capo delle quali loro sono messi. Quindi io metto in fila, in questo modo, tutti quelli che stanno dentro una divisione, per capirci, e costringo, tra virgolette, a fare squadra, perché se c'è qualcuno che si allontana, o gli altri lo devono sostituire, oppure è chiaro che si crea un conflitto, una competizione là dentro, sì, che si deve risolvere o attraverso l'espulsione della persona o attraverso una distribuzione qualitativa dei premi che gli si danno. Ricordiamo che quando ci sono sempre le classifiche dei premi, quando vengono fuori, vengono pubblicate, sono ufficiali, cos'è? Il 99,9% dei dirigenti ottengono il massimo per premio di produttività. 24 mattino. Eccoci qui, siamo con il sottosegretario alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti, con il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, che ha scritto provocatoriamente all'altissimo addio per aiutarlo, perché non ci sono altre armi per combattere l'assenteismo dei dipendenti comunali. Marco dalla provincia di Treviso ci chiama. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda, cioè quando si parla di assenteismo non vedo mai sul banco degli imputati l'ordine dei medici, cioè questi certificati verranno pure rilasciati da qualcuno. Guardi, Marco, molti ascoltatori ci hanno scritto questo, però lei può avere, ha sicuramente ragione, certo che ci sono dei medici che firmano i certificati, però di fronte, che ne so, a un medico o a un cittadino, a una persona che va da un medico e dice guardi mi fa male la schiena terribilmente, ho un colpo della strega e non riesco a muovermi, non lo so, sindaco, sindaco calabrese. No, ma è così, è difficile poi, per quanto io condivido quello che dice Marco. Dice, c'ho un mal di testa terribile da due giorni, non ho dormito tutta notte, ho mal di testa, mi sento male, ho giramenti di testa. È il medico che può fare, però certo, sindaco, dica. No, io volevo dire, evidenziare a Marco un dato curioso, no? Cioè, i nostri dipendenti, noi abbiamo il 20% dei dipendenti che sono idonei con prescrizioni. Mm. Faccio un esempio, nell'ufficio tecnico i 20 addetti ai servizi esterni, 10 hanno prescrizioni del medico del lavoro che devono evitare di sollevare i carichi pesanti. Fantastico. Della polizia municipale, su 7 addetti, 3 hanno prescrizioni in quanto devono evitare la stazione retta prolungata. Cioè i vigili che non possono stare in piedi. Non possono stare in piedi. Ma, no, ma lei ride, sindaco, lei ride, ma ci sarebbe da piangere. Ci sarebbe da mettersi la testa al muro, immagini le difficoltà quotidiane che ho questi dipendenti. No, ma immagino, cioè il vigile... Bravissime persone, per l'amor del cielo. Poi io vorrei capire il vigile. Ho capito, ma lei dice bravissime persone, ho un ottimo rapporto con loro, cioè sembra che vi vedete al bar e bevete il caffè amichevolmente, ma poi la città si ferma. Vabbè. Cose e cercare di risolvere il problema. Io volevo approfittare anche, io ringrazio il ministro della pubblica amministrazione, la Polizia Pubblica, l'onorevole Marianna Maria, che ieri mi ha telefonato, una lunghissima e cordialissima telefonata. Il ministro cercherà di fare proprio la causa di Locri e darci gli strumenti giusti per poter risolvere queste problematiche. E che le ha detto? Perché qua abbiamo il sottosegretario Rughetti, quindi sottosegretario, che cosa si può fare per sapeva, non so, di questa telefonata, forse non vi siete parlati, lei è il ministro, non è che vi raccontate anche le telefonate che fate. Però come si può risolvere la situazione a partire dal caso di Locri, sottosegretario? Ma guardi, sapevo ovviamente della telefonata. Su diciamo, il caso di Locri, poi il sindaco e il ministro hanno concordato un piano di lavoro e, diciamo, come è nostra abitudine, ci piacerà poi magari comunicare i risultati dell'azione che si farà lì. Sì. Locri, diciamo, non va condannata, se non voglio mettere un faro su una comunità e su un sindaco, su un'amministrazione, sui dipendenti. È lo specchio purtroppo di un'Italia che è fatta a macchia di leopardo, perché ci sono amministrazioni che funzionano bene, che danno i servizi, altre che purtroppo non funzionano. È chiaro che quando c'è, tra virgolette, una predisposizione o una non predisposizione etica rispetto al compito che si fa, cioè viene interpretato l'andare in un ufficio come un qualcosa in più, perché tanto lo stipendio non arriva lo stesso, uno può prendere soltanto una mazza da baseball, parliamoci chiaro, cioè non è che ha tante altre cose con cui lavorare. Altrimenti bisogna fare quello che dicevamo prima, cioè cominciare a differenziare le mele buone dalle mele cattive e dare al sindaco lo strumento per poter dire a fine mese guardate, Tizio si è comportato bene, avrà 10, Caio si è comportato male, avrà 5. No, serve che il sindaco abbia lo strumento e il sindaco abbia il coraggio, perché quello che è mancato anche in questi anni sono amministratori locali o dirigenti, soprattutto dirigenti, che per tenere per la pace sociale hanno deciso di non decidere. No, ma guardi, di fronte a lei che dice che di fronte a certe situazioni c'è solo la mazza da baseball, c'è bene che ci avviciniamo a quel tedesco che ho citato all'inizio, che vorrebbe prendere un bel carro armato. No, ma certo, provocazione per provocazione, quel cittadino tedesco che magari è tentato a dire mo adesso facciamo una bella invasione, l'hanno già fatto e quindi magari non sono tentati, non li ha portato benissimo, però a dire magari spieghiamo due o tre cose di come si amministra una cittadina, come si amministra uno Stato. Delfino ci chiama dalla provincia di Teramo, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Milan, mi trovo in Colegara, quindi in questo comune, 2500 abitanti, 8 impiegati. Però la sento anche un po' male, non so se il comune è piccolo, ma che c'ha il viva voce, che fa? Allora, lo tolga via buongiorno, voce. Ci dica il comune, dottor. Il comune dov'è? In Colegara, sì. Teramo. Allora, sono 8 impiegati, 8 telefoni. Quando rispondono mi cantano la canzone I love you in inglese, a me amano, vanno a prendere il cappuccino, comandano loro e praticamente hanno tutti amici attorno, comprende? Non può alzare il telefono perché comandano loro. Ubi Maior, minor Cesare. Ma lei è un cittadino o un amministratore? Non ho capito. No, sono un cittadino, indignato. Indignato. Loro che dominano la situazione, gli stessi consiglieri praticamente hanno tutti bisogno di un lavoro, quindi succubi di chi comanda. Cioè lei quindi dice i dipendenti comunali del suo comune vanno a bere il cappuccino, vabbè. Come no, come no? A prote, come se il comune fossero una loro azienda. Ah, il comune. Certo, quindi loro sono i titolari e i cittadini sono sudditi, caro signore, caro dottor Nigel. Va bene. Come si può provvedere? Come si può provvedere? Se uno, mi perdoni, se uno protesta e propone, viene praticamente indagato. Comprende? No, caro Delfino, si riferisce insomma a quel, a quello spirito civico che se c'è, bene, e se non c'è, non è che uno lo può inculcare nella mente di un dipendente che vuole fregare lo stipendio perché tanto sa che arriva. Nel concludere, sottosegretario Rughetti, però mi preoccupa quando leggo che anche ieri sul Sole 24 Ore mancano 77 decreti attuativi da approvare per implementare e rendere efficace la riforma della pubblica amministrazione, che è uno dei problemi. Ce ne sono 700 in totale di decreti attuativi, 77 per questa riforma. Questo come si risolve e quando? Allora, soprattutto guarda, intanto mi piace sottolineare un fatto accaduto. Noi quando abbiamo ricevuto il voto di fiducia al DL90, mi sembra che era l'8 o il 9 agosto, lo stesso giorno il ministro ha convocato una riunione a Palazzo Vidone, che è il Palazzo del Ministro della Funzione Pubblica, dove abbiamo fatto la distribuzione dei compiti, e cioè quali atti servivano per rendere efficace il decreto, lo stesso giorno che è stato convertito il decreto. Oggi facciamo la riunione successiva per verificare il lavoro che è stato fatto in questo mese scarso e per smaltire appunto questi 70 decreti legge. Quindi il lavoro di questi 70 decreti attuativi, il lavoro sta andando avanti e manterremo tutti gli impegni che sono presenti nel decreto 90. Aggiungo che sull'arretrato dei decreti interministeriali ci sono due attività che stiamo facendo. Una la sta facendo brillantemente il ministro Boschi, sì. Noi abbiamo ricevuto più o meno in eredità 850 decreti da smaltire, siamo arrivati a 520, il ministro l'altro giorno in conferenza stampa ha assicurato che a breve l'arretrato verrà smaltito con questa tax force che ha costituito a Palazzo Chigi. Per il futuro, nel disegno di legge delega della pubblica amministrazione che oggi inizia la discussione al Senato, abbiamo previsto due norme a tagliola, io le chiamo. La prima è quando c'è il concerto, cioè quando bisogna fare un decreto interministeriale dove è necessario il consenso degli altri, abbiamo messo un principio anche tra i ministeri, cioè quello del silenzio assenso, l'abbiamo allargato a tutti i settori, quindi decorrono 30 giorni da quando un ministero chiede all'altro il suo parere, se quello non risponde dopo 30 giorni il consenso si sente acquisito. Ma abbiamo fatto di più, perché abbiamo previsto che qualora il ministero non si attivi, ci sia una sorta di sostituzione della Presidenza del Consiglio. Quindi la risposta è, stiamo smaltendo l'arretrato, ma abbiamo costruito delle norme che ci consentiranno di non avere più arretrati, e questo per il futuro dovrebbe aiutare. Va bene, insomma, questo è quello che ci auguriamo. Intanto io ringrazio il sottosegretario Angelo Rughetti, ringrazio il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. Prima di andare al traffico sentirei anche Federico da Bergamo. Buongiorno Federico. Buongiorno Milan, allora avete già anticipato un pochino tutti gli argomenti di cui avrei voluto parlare, in particolare per contestare un po' quanto diceva il sottosegretario Rughetti. Secondo me nel caso di Locri non si tratta di dare di più ai meritevoli e di meno ai meno meritevoli, si tratta semplicemente di licenziare i fannulloni. Vabbè, in quei casi sì, cioè se, ma questo ce l'ha detto, cioè l'idea che se uno non lavora arrivare in una situazione in cui può essere preso e cacciato via. Prego Federico. Come dicevate ieri in trasmissione, Renzi, di cui il sottosegretario rappresenta il governo, ha un mandato praticamente in bianco, quindi è Renzi che deve usare le Panzer Division. Non dobbiamo aspettare quindi, quelle tedesche, dice, ce le abbiamo noi. No, non dobbiamo aspettare quelle tedesche, ce le ha anche Matteo Renzi, quindi un invito ad andare avanti, perché veramente non se ne può più. Ah, tra l'altro, tra poco vedremo anche la stessa saga per quanto riguarda i professori, tra un po' inizierà la scuola, quindi attendiamoci una marea di certificati di professori. Beh, adesso, questo non lo speriamo di no, ci saranno sicuramente, però sulla scuola oggi tra l'altro ci sono le novità che verranno annunciate alle 10, poi discusse nei prossimi mesi, diventeranno una riforma, ma nel 2015 il nuovo patto educativo. Non mettiamo troppo i piedi avanti anche sulla questione della scuola, però la ringrazio Federico, devo andare alle informazioni sul traffico e dopo avremo con noi, è già con noi il sindaco di Iesi, Massimo Bacci, che saluto, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Chiedo buongiorno. 30 secondi di attesa, c'è il traffico e sono subito da lei. Allora, alle 8:49 minuti sono partito in questo spazio alle 8:15 a dire ma che paese è quello in cui il sindaco di Locri deve arrivare a scrivere addio per aiutarlo a combattere l'assenteismo comunale. E si potrebbe dire che paese è, che razza di paese è quello in cui un signore fermato 4 volte negli ultimi 8 mesi e rilasciato poi si è reso protagonista i giorni scorsi, lo saprete sicuramente, si chiama Precious Omobogbe del Ghana, di avere, che cosa sindaco, preso 2 macete da un'armeria dopo aver spaccato una vetrina e aver terrorizzato la popolazione e aver anche ferito un poliziotto. Sindaco, ma com'è possibile che sia stato fermato 4 volte in 8 mesi e rilasciato? Ma guardi, credo che in questo caso vengano applicate le attuali norme italiane, c'è stato il decreto svuota carceri che sta permettendo questo, devo dire che nel caso di questa persona credo che ci siano anche problemi di squilibrio, non mi risulta che faccia uso di sostanze stupefacenti, rimane un dato oggettivo che, e questo un po' le forze dell'ordine si lamentano da tempo di questa situazione, che chi delinque viene fermato, viene processato e arrestato e poi il giorno dopo è di nuovo libero. È un problema oggettivo. Questo è un problema oggettivo che c'è e che viene denunciato da amministratori come lei, ma anche appunto dalle forze dell'ordine, dalle forze della polizia. Voi conoscevate comunque la situazione, quindi mi pare di capire, voi sul territorio di questa persona. Ah sì, perché questa persona si è reso attore di fatti anche recentissimi, di elevata gravità nei confronti di un proprio familiare, è stato arrestato e poi ce lo ritroviamo circa un mese dopo a fare un atto come quello che ha fatto lo scorso lunedì. Sinceramente questo un po' imbarazza, nel senso che anzi devo pubblicamente fare un encomio alle forze dell'ordine perché hanno gestito la situazione direi in maniera perfetta, hanno fatto in modo che non accadesse nulla e le garantisco che ci sono state circa un'ora di vero terrore in città, perché questa persona assolutamente ha tenuto un atteggiamento assolutamente squilibrato e sono stati bravi, tra l'altro l'hanno solo ferito leggermente, so che attualmente è piantonato in ospedale, adesso verrà processato di nuovo e mi auguro che questa volta venga trattenuto in carcere per un periodo, comunque curato, perché credo che questa persona abbia bisogno anche di cure. Sì, c'è da dire che adesso le accuse sono tentato omicidio, violenza, resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento, furto aggravato, quindi certamente adesso la situazione per lui si complica di più. Sa che oggi Libero, per esempio, come quotidiano titola e scrive nell'articolo così: per fermarlo il metodo più rapido ed efficace sarebbe stato sparargli addosso, e per gli abitanti della cittadina di Iesi in provincia di Ancona le forze dell'ordine avrebbe meritato una decorazione se si fossero esercitate nel tiro al bersaglio. Le leggo testuale l'articolo oggi di Andrea Morigi su Libero. Lei che ne pensa da sindaco? Non sono assolutamente d'accordo, episodi di questo genere hanno riguardato anche cittadini italiani, tra l'altro qui nel nostro territorio ultimamente sono accaduti fatti simili, credo che tutte le persone, specialmente chi non sta bene, debba essere prima curato, debba essere aiutato a non delinquere, poi è chiaro che in qualche maniera vanno gestite queste persone, però adesso arrivare a sparare alle persone ed ucciderle, insomma, mi pare una forzatura che non, assolutamente non condivido. La questione, lei ha toccato l'altro punto, insomma, come ben sa, il fatto che questa persona sia un immigrato è una vicenda che ha suscitato un dibattito nel dibattito, se vuole. Da un lato c'era l'aspetto della sicurezza, dall'altro lato c'è l'aspetto che questa persona è appunto di origine ghanese ed è stata fermata 4 volte, come abbiamo detto, in 8 mesi. Su questo spesso gli amministratori locali raccontano anche una sorta di abbandono da parte delle autorità centrali nella gestione dei fenomeni migratori. Lei è d'accordo? Sono pienamente d'accordo, non c'è stata una programmazione, non è stata fatta una svolta, un'attività di inclusione vera. Anche nella nostra città noi abbiamo circa 41.000 abitanti, circa il 10%, 4.100 sono extracomunitari, vivono in un unico quartiere, sono concentrati in uno o due quartieri della città, dunque non è stata fatta una politica. Quello che non accade in questo paese sul nulla in generale, non si programma, si subiscono le situazioni e poi si arrivano col tempo a dover gestire qualcosa che non è stato gestito all'inizio e ci sono dei problemi. Dunque che non sia stata fatta anche qui da noi una politica inclusiva, programmata, assolutamente non è stato fatto, è un po' la caratteristica in generale, credo, di questo paese in questo momento. Ci stiamo pagando un po' su tutto perché non abbiamo probabilmente programmato su nulla. Per concludere, sindaco, come sta invece il capitano dei carabinieri che è stato ferito in questa azione di contenimento di questa persona? Sta bene, ci ho parlato, lo ringrazio pubblicamente, sta svolgendo un lavoro straordinario a Iesi, gliel'ho detto di persona, devo veramente ringraziare le forze dell'ordine che a Iesi stanno lavorando benissimo, dunque un aspetto positivo che riguarda lo Stato va assolutamente evidenziato, stanno facendo un ottimo lavoro a Iesi. Intanto io la ringrazio, grazie per essere stato con noi, il sindaco di Iesi, provincia d'Ancona, Massimo Bacci. Prima del giornale radio c'è Patrizio della provincia di Rovigo che ci chiama, immagino sul tema che invece abbiamo affrontato prima col sottosegretario e il sindaco di Locri. Patrizio, buongiorno. Buongiorno. Sì, io sono un dipendente comunale, ho 54 anni, del nord, Rosolina, provincia di Rovigo. Sto andando proprio ora a Verona per lavoro, sì. Sono all'assetto del territorio, all'anagrafe, ufficio elettorale, ci adattiamo a fare un po' di tutto, ma la gente ci guarda male appunto per queste cose che si dicono dei dipendenti comunali. Beh, si dicono. Non bisogna fare di tutte le erbe un fascio. No, Patrizio, no. Perché attenzione. Nelle piccole realtà la gente lavora. Ma certo, Patrizio, scusi, però sì. Nessuno ne fa di un'erba un fascio. Non, specifichiamo bene, nessuno dice che i dipendenti comunali, io odio le categorizzazioni come quelli che dicono i giornalisti sono dei farabutti, allora io dico gli idraulici sono dei ladri. No, ogni persona risponde per se stesso, ma la questione è che lei che lavora rispetto a quello che non lavora non c'è una parità di trattamento, ricevete entrambi lo stipendio, capisce Patrizio? È un'ingiustizia prima di tutto nei suoi confronti che lavora, Patrizio. Però sai che io nel mio paese che 6.500 abitanti ed estate diventa 10 volte di più perché è turistico, sentiamo gli sguardi delle persone che ci guardano male, andiamo a bere un caffè timbrando, sì? E ci dicono guarda dove vanno, vanno dove a bere vanno. Il caffè. No, ma questo è sbagliato, ma è colpa del fatto che non si riesce a punire chi non lavora, se si riuscisse la guarderebbero meglio. Giornale radio, riprendiamo dopo. 24 mattino. Eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, andremo in onda come sempre per queste 2 settimane fino alle 9.30 e vogliamo parlare di situazione internazionale, ci concentriamo soprattutto su quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, perché davvero si sente l'eco lontano del rischio di una guerra, questo almeno ha intimato il Cremlino alla NATO, agli Stati Uniti, non avvicinatevi ai confini russi con i vostri soldati, con i vostri cannoni, altrimenti potrebbe cambiare la strategia militare da parte di Mosca, e come scrive il Corriere della Sera il resto lo lasciamo alla vostra immaginazione, alle paure. Da registrare anche, come abbiamo sentito poco fa, la notizia che è stata data dall'agenzia di stampa RIA Novosti dalla Russia, della morte in Ucraina del proprio fotoreporter Andrei Stenin, che era scomparso il 5 agosto scorso, si pensava rapito, e invece ora l'agenzia di stampa ha comunicato, abbiamo saputo che è stato ucciso. Io voglio salutare Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno. Come voglio salutare Savik Schuster, che torna a trovarci, è autore e conduttore di Schuster Live, programma molto seguito sul primo canale nazionale in Ucraina. Savik, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Intanto, Schuster, insomma, voglio chiedere se davvero quello che viene percepito da noi come rischio di una possibile escalation militare è un qualcosa di concreto o sono solo dichiarazioni che si fanno? No, io penso che sia un pericolo molto concreto, visto che ormai la Russia nemmeno nasconde tanto che i suoi militari sono sul territorio ucraino. Quindi in fondo, anche se la guerra è non dichiarata, di fatto c'è già un conflitto bellico tra due paesi. Quindi io penso che questo conflitto possa allargare in qualsiasi secondo e prendere diventare drammatico in qualsiasi momento. Credi che le manovre della NATO possano in qualche modo, ovviamente dal punto di vista russo, acuire questo rischio, aumentarlo questo rischio, e però dall'altra parte la NATO cosa dovrebbe fare? Stare a guardare senza agire? Ma io penso che l'Occidente in generale, la NATO in particolare, in questo momento si gioca parecchio della propria credibilità. Io penso che o l'Ucraina si arrende e smette di perdere le vite dei giovani ragazzi, perché mai Ucraina sola potrà resistere a lungo contro la Russia, o veramente c'è l'appoggio della NATO, delle democrazie occidentali, dei paesi civili democratici, e allora a questo punto l'Ucraina può sperare in qualcosa. Ecco, io penso che oggi queste due possibilità sono uniche. Che l'Ucraina si arrenda, però cosa vorrebbe dire? Cioè che Kiev diventerebbe... No, l'Ucraina a questo punto dice va bene, Crimea è vostra. Ah, okay. No, adesso volete prendervi Kharkov, Mariupol, Donetsk, Lugansk, Kherson, tutta questa striscia, e creare quello che voi chiamate la nuova Russia, prego, no? In questo senso, perché adesso arrivare con i carri armati a Kiev non ci vogliono 2 settimane, ci vogliono 2 ore. Ma infatti no? Questo sarebbe anche contenuto in un rapporto segreto che la NATO ha già fatto e che Der Spiegel avrebbe pubblicato online, cioè dal punto di vista militare non c'è confronto, ecco, mi sembra di capire, Schuster. Sicuramente, questo sicuramente, quindi questi cosiddetti ribelli, perché io non li chiamerei ribelli, perché la gente che, va bene, non c'è ancora sicurezza al 100%, però pensiamo che sia così, che abbattono un aereo civile, difficilmente si possono chiamare ribelli, allora a questo punto sono armati in una maniera massiccia dalla Russia, più con gli istruttori, più con i soldati, ma cioè, uno deve rendersi conto che cosa hanno in arsenale. Ce l'hanno il sistema Grad, che è una Katyusha ma molto più sofisticata, che può coprire il territorio abbastanza grande e distruggere completamente. Ce l'hanno missili terra-aria, ce l'hanno tutto. Più in più le posizioni dei militari ucraini sono attaccati con l'artiglieria dal territorio russo, più con gli uomini russi che sono sul territorio dell'Ucraina. Questa è una cosa impossibile, qua è impossibile resistere. Ma addirittura gli volevo dire, se il quartier generale dell'esercito ucraino già ha predisposto il piano di creazione di un movimento partigiano, allora questo vuol dire che faccia a faccia non c'è confronto. Questo certamente. Insomma, le due alternative, ha sentito il professor Parsi, secondo Savik Schuster, che o l'Ucraina si arrende, cioè dice ok, vi tenete la Crimea che avete preso e anche appunto Mariupol, l'altro corridoio che la Russia ora rivendica, oppure la NATO deve in qualche modo appoggiare l'Ucraina. Ma voglio dire, siamo pronti e dobbiamo, secondo lei, entrare in un'azione anche militare, federale? Federica Mogherini e l'Europa dice l'azione diplomatica è l'unica possibilità. Ma ce n'è ancora spazio per questa azione diplomatica, professor Passi? E la linea forse è caduta perché si sta spostando in treno. Lo chiedo allora a Savik Schuster: quanto spazio c'è per la linea diplomatica, per l'azione diplomatica in questo momento? Ma vede, io, questo è già soggettivo, io non credo a una parola di quello che si dice al Cremlino, perché il Cremlino si comporta un pochino come si comportava Adolf Hitler negli anni dal 35-36 in poi. Vabbè, io capisco che paragonare Putin a Hitler piace o non piace, però il comportamento politico è lo stesso. Se uno pensa alla pace di Locarno, alla conferenza di Locarno del 35, quando veramente è stata, cioè, la Gran Bretagna è diventata garante della pace tra la Francia e la Germania, così anche c'è stato il protocollo di Budapest, quando Ucraina ha rinunciato alle armi nucleari. Allora, i garanti di quel processo, della integralità territoriale, sono stati gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, Francia, Russia. No? Allora, a questo punto bisogna tornare a quei giorni e garantire la integralità territoriale dell'Ucraina. Ma perché l'Ucraina ha rinunciato alle armi nucleari, perché se avesse oggi l'arsenale, che era il terzo arsenale nucleare, Ucraina, tutto questo non sarebbe successo. Professor Parsi, abbiamo recuperato la linea, forse ci sono stati dei problemi. Lei crede nell'azione diplomatica dell'Europa a questo punto, professore? Intanto l'azione diplomatica ha un senso solo se non si esclude escludono altre opzioni. Non stiamo evidentemente parlando di combattere la Russia domani, ma stiamo parlando di sostenere l'Ucraina e avanzare il dispositivo di difesa nelle repubbliche baltiche in maniera permanente. Perché su quello che ha detto Schuster io sono d'accordo al 100%. C'è un problema della credibilità del diritto internazionale, c'è un trattato internazionale che ha portato alla denuclearizzazione dell'Ucraina. Se questo trattato viene messo sotto i piedi dai russi, vuol dire che nessun trattato è credibile e quindi di conseguenza nessuna azione diplomatica adesso e in futuro nel mondo ha nessuna credibilità. Quindi è importante che noi sosteniamo l'Ucraina, è importante che noi spieghiamo ai russi che quello che stanno facendo avrà conseguenze permanenti. Le conseguenze permanenti sono l'avanzamento del dispositivo militare della NATO vicino ai confini russi. È l'unico modo per spingere la Russia a cessare questa attività di aggressione, perché la Russia è già in guerra nei confronti dell'Ucraina. Sì. Però questo viene percepito dal Cremlino, cioè l'avanzamento del militare da parte della NATO viene percepito come una sorta, almeno stando alla dichiarazione, di predichiarazione di guerra. I russi dicono tante cose e fanno cose diverse da quelle che dicono. Noi siamo seduti al tavolo con un signore che si chiama Putin, che mente spudoratamente. È dai tempi di Stalin e dai tempi di Hitler che non si assiste alla politica estera di una grande potenza che fa una cosa mentre dice un'altra. C'è sempre un margine di furbizia, ambiguità, di non detto, per così dire, delle azioni, delle dichiarazioni delle grandi potenze rispetto a quello che stanno facendo. Ma è raro, veramente nella storia è raro assistere a qualcuno che se ne frega, scusi il termine, completamente di essere palesemente in infrazione. È come un marito che fa le corna alla moglie e ne è sorpreso con l'amante, segue la vecchia tattica del negare tutto, negare sempre, soprattutto l'evidenza. Ecco, però adesso Lady Pesk, come ormai siamo abituati a chiamarla, Federica Mogherini, in questo nuovo ruolo di alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, ha detto che Mosca non è più un partner strategico. Sa meglio di me, professor Parsi, che Federica Mogherini era stata accusata di essere un po' troppo filorussa, per questo c'erano anche dei dubbi internazionali sul metterla in quel ruolo lì. Ora, appena è arrivata lì, in un'intervista al Corriere e ieri in un dibattito al Parlamento europeo, ha detto appunto: Mosca non è più un partner strategico. Può fare qualcosa l'Italia con questo ruolo, oppure, come credo io, insomma, la politica estera europea è tutta da costruire e forse chi lo sa, insomma, non per essere pessimisti, ma sono più ruoli e poltrone di facciata che altro, professore. Come lei sa, finalmente i giornali, dopo il coro di la ola da stadio, diciamo così, per la nomina del ministro Mogherini al ruolo di Lady Pesca, appunto, iniziano a tornare a ragionare su quello che noi abbiamo scritto prima che questo fatto avvenisse, e non perché avevamo in uggia Federica Mogherini, ma perché era del tutto evidente che tra tutti gli stari della commissione quello che conta meno è il responsabile della politica estera di sicurezza, perché non c'è una politica estera di sicurezza. L'unico che ha contato in quel ruolo è questo signore chiamato Javier Solana, che contava perché prima era stato segretario generale della NATO, certo, che contava per rassicurare gli Stati Uniti, faceva valere quel ruolo, l'America sul fatto che l'eventuale politica estera comune dell'Europa non sarebbe significato neutralità. Io su questo vorrei chiedere anche a Savic Schuster, dal punto di vista ucraino, nel senso di uno che vive e sente la percezione di quello che succede lì anche tra la gente. Schuster, Lady Mogherini, ma comunque quel ruolo lì dell'Unione Europea viene percepito nel paese come un qualcosa che può davvero smuovere la situazione, risolverla, dare una svolta alla situazione, oppure viene percepito come una poltrona inutile? No, inutile no. Il discorso, cioè, qua prendiamoci, c'è il popolo, c'è la gente, che Ucraina è cambiata moltissimo in questi ultimi mesi, perché la gente è molto tesa, molto nervosa, la gente parla di una possibile guerra a grande scala, quindi si fa i piani come evacuarsi, scappare, c'è anche a Kiev, no, quindi in questo tipo di atmosfera chiaramente le continue dichiarazioni politiche europee che siamo turbati, siamo preoccupati, queste dichiarazioni ormai loro non toccano la gente, e c'è l'elite politica evidente che fa veramente crede in Europa, crede che il terzo livello di sanzioni possa essere veramente effettivo, cioè efficiente, quindi qua sono due livelli di percezione. È chiaro. Io, visto che qualsiasi zona e teatro di guerra poi ha delle ripercussioni economiche non indifferenti, il Sole 24 Ore ovviamente lo racconta quotidianamente, ma ci sono moltissime imprese italiane che da questa situazione ne hanno tratto già moltissimi problemi. Pensate che oggi il Sole 24 Ore scrive che il Made in Italy rischia di perdere almeno 1 miliardo di esportazioni per l'embargo russo. A questo a proposito, io voglio salutare Paolo Venturelli, che è un imprenditore. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lei presiede Venturelli, un'azienda di Gavardo in provincia di Brescia, un'azienda, se non sbaglio, una piccola media impresa, 11 dipendenti, una piccola impresa quindi, che esporta in 40 paesi del mondo e fate calzature per la ginnastica, soprattutto artistica, ritmica. Sappiamo che la Russia, per esempio, ha una grandissima tradizione in questo sport. Voi quanto avete perso di export con quel paese? Ma, noi la Russia nel bilancio 2013 era al 12% delle nostre vendite. Dal 1 di gennaio arrivare ad oggi abbiamo perso rispetto al 2013 il 40% delle vendite, e se dobbiamo essere chiari abbiamo perso anche un buon 70% delle vendite in Ucraina, perché comunque esportavamo anche in Ucraina, perché anche l'Ucraina vanta una notevole tradizione nell'ambito della ginnastica. Quindi la situazione non è sicuramente bella per noi e andrà probabilmente avanti così. Però lei crede che, insomma, gli aspetti economici, che sono importanti, come debbano essere affrontati? Oppure ci sono delle priorità in questo momento che sono quelle di evitare una guerra? Purtroppo le guerre, quando accadono, evidentemente hanno anche delle ripercussioni economiche per chi lavora con i paesi che sono teatro di queste guerre. Penso che tutto il genere umano la debba ripudiare, perché è la cosa più brutta che ci può essere, e soprattutto chi la vive sono le popolazioni, sono i cittadini, soprattutto il popolo ucraino, perché direttamente ne è coinvolto, e noi che facciamo comunque commercio, per noi va tutto sommato va ancora bene, perché non rischiamo la vita, i nostri bisogni riusciamo a far fronte e quant'altro. noi da questo scenario dobbiamo diversificare, abbiamo l'amaro in bocca, anche perché abbiamo degli amici sia in Ucraina sia in Russia, che non capiscono perché questa guerra ha da farsi, e si va avanti così, si cerca di trovare soluzioni alternative migliori e pensare al meglio e sperare che non succeda niente. Certo, ovviamente le prime commesse sono state, credo, perse dalla Federazione Russa, che era, sì, era un vostro cliente, ma anche, sì, quindi dallo Stato, se vuole, no? ma anche dai privati che... ma come mai? Cioè, voglio dire, perché non, per esempio, i privati non possono continuare ad acquistare i vostri prodotti? Innanzitutto c'è un indebolimento del rublo, che dai 38-40 rubli a euro che era l'anno scorso è schizzato a oltre 50 a febbraio e anche stamattina è sui 49, quindi un notevole deprezzamento del rublo. In secondo luogo, diciamo che tutti in Russia, i nostri clienti privati, stanno cercando di far cassa, nel senso che stanno cercando di abbattere il più possibile i magazzini. E anche loro dicono: preferiamo acquistare e rivendere russo piuttosto che acquistare italiano in questo momento qua. Ma certo, questo è il tema, se l'inasprimento delle sanzioni che è sul tavolo anche di discussione della NATO possa chiaramente poi avere ripercussioni per tutte quelle aziende che esportano in Russia. Devo dire e devo girare questi messaggi che ci arrivano al 349-238-6666 a Savic Schuster, perché sono arrivati un paio di messaggi, per esempio sulla questione dell'aereo, visto che Schuster aveva fatto riferimento prima all'aereo abbattuto. Ci scrive un ascoltatore che non si firma: tutti sanno che l'aereo malese è stato abbattuto da Kiev, non si può scherzare. Così Savic Schuster, che replica al messaggio di questo ascoltatore? No, io penso che sia a un ascoltatore poi anonimo, è difficile replicare. Cioè, vabbè, diciamo, c'è il numero, ma che non si può dire, però non si firma come nome, comunque dice così. No, va bene, io adesso, sa, è difficile convincere qualcuno che ci crede ciecamente, no? Che io so i miei, cioè tutte le mie fonti di informazione mi dicano che questo è stato un missile terra-aria portato dal territorio russo sul territorio ucraino ed è stato sparato da un equipaggio russo, perché questo sistema di terra-aria, adesso non voglio entrare nei dettagli, deve essere veramente maneggiato dalle persone che sono molto competenti. Ma è chiaro, questi sono poi, si sa che ognuno può dire ciò che vuole. Professor Parsi, per concludere, la questione delle sanzioni, sa, per esempio ci scrive subito anche un altro ascoltatore: Immobile italiano si era salvato, l'embargo russo è la mazzata finale al rischio di un comparto che è in grave difficoltà. Qui c'è l'equilibrio da tenere, è caduta la linea, l'equilibrio da tenere, allora lo chiedo a Savic Schuster, tra una situazione di guerra e creare un embargo che poi va a impattare sulle economie nazionali, come il caso per esempio dell'economia italiana. Che linea tenere? Questo è il problema, Schuster. Ma vedi, ma noi abbiamo una scelta, no? O stiamo pensando ai nostri figli o stiamo pensando alle nostre tasche. In fondo sì, si può veramente, io capisco l'imprenditore, io capisco le persone che con la propria creatività, contatti, fanno veramente, danno posti di lavoro, creano bene, però stiamo di fronte a una possibile grande guerra europea un'altra volta. Quindi qua ognuno si prende le proprie responsabilità. Io personalmente sono molto più preoccupato per il futuro dei miei figli. Io non vorrei che il mio figlio morisse in una guerra, io non so nemmeno, non c'è, tutte le guerre non hanno senso, però in una guerra europea violenza che è cominciata in questo modo, che ha cominciato una persona, un dittatore un pochino squilibrato, ecco, no? Va bene, staremo intanto a vedere come procede la situazione e speriamo davvero che la diplomazia, che è l'unica arma secondo Federica Mogherini che si può utilizzare, non c'è una prospettiva militare, insomma, speriamo davvero che sia così. Ringrazio Savik Schuster che conduce Schuster Live sul primo canale nazionale in Ucraina, il professor Vittorio Emanuele Parsi e Paolo Venturelli, imprenditore e presidente di Venturelli, per essere stati con noi. Ci fermiamo anche oggi con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Vi diamo appuntamento a domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.